utilizzare appunto la materia con l'antimateria, cioè parliamo di antimateria, visto che l'antimateria secondo me è più intelligente della materia, no? Bisognerebbe votare l'antimateria. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Ascolta, ascolta questa, perché non so se Grillo ha perso per queste cose o perché i voti sembrano inutili agli elettori, oppure per mille altri motivi che non stiamo qui a discutere, o forse discuteremo questa sera, caro Parenzo, però senti cosa ti ho ritrovato in un comizio di Grillo. Senti, senti, ti prego, senti. La prostata, per curarla, l'unica cosa, scusate la volgarità, bisogna trombare! Hai capito? Lo dice British Medical Journal, sì! O se no, fai altre cose! Il British Medical Journal dice 21 eiaculazioni al mese, io sono a 18, quindi 21! Io non sono un esperto, non sono un medico, non consulto come Grillo il British Medical Journal o come diavolo si chiama, però io questa francamente non l'ho mai sentita. Cioè, non è che per... hai problemi di prostata tu, David? No, per ora no, ma dico che tu dovresti star tranquillo allora. Ah, la battuta, gli è uscita la battuta delle 18.35. Ah, che vuol dire? Che tu sostanzialmente trombi meno di 21 volte al mese? Io dovrei preoccuparmi, infatti, ma in Germania lo fanno, è evidente. Cioè, che fanno in Germania, scusa? Ma in Germania nessuno ha la prostata, scopano solo. Ma lo dicono tutti, anche Helmut Kohl. È caduto il muro di Berlino, ma e tutti stavano scopando. Ma è evidente, non c'è neanche un malato di prostata in Germania, lo fanno. No, però, ragazzi, riascoltiamo, perché per carità, ci sono risultati delle amministrative, che poi chi se ne frega, perché ci sarà il ballottaggio tra Marino e Alemanno a Roma, che è la cosa più significativa. Il nostro amico Gentilini pare che vada al ballottaggio. Ottaggio pure lui, sono finiti i tempi del sindaco sceriffo che prendeva il 60-70%, Parenzo? Sono finiti anche quelli, vabbè, comunque, insomma, vedremo, no? Hanno votato pochi romani alla fine, il 52%, dunque c'è spazio al ballottaggio anche per il signor Alemanno. Vedremo, tutto questo lo vedremo. Però io voglio fare riascoltare, beh, cari amici della Zanzara, milioni di ascoltatori che sono qui. Cari amici, non è possibile, ma è diventato anche un medico il signor Grillo. La prostata, per curarla, l'unica cosa, scusate la volgarità, bisogna trombare! Hai capito? Lo dice il British Medical Journal, sì! O se no, fai altre cose! Il British Medical Journal dice 21 eiaculazioni al mese, io sono a 18, quindi 21! Poi devo andare a ripescare qual è lo spunto per parlare di questa cosa qua, in uno dei comizi finali è stato venerdì. Comizio finale di Grillo, forse addirittura a Roma, comizio finale a Roma di Grillo. A un certo punto parla della prostata, forse perché non lo so, poi vedremo, vedremo, sentiremo. Trombano anche i dice così, adesso non è che ci deve accusare di parlare in maniera cruda, lo dice lui, Grillo, è uno dei principali protagonisti della vita politica italiana. Come l'hai fatto? Come no? Grande! E li trombano anche i soldi, cosa c'è? Adesso mica rincoglionizza, al solito sono cascetti. Allora. Ok, come comico è sempre il numero uno, non c'è dubbio. Ancora Grillo, ancora Grillo. In Australia fanno i grattacieli, questa è buona per te, David. In Australia fanno i grattacieli con il bambù, senti. Fanno i grattacieli in Australia col bambù, col legno, Renzo Piano col legno. E noi ancora col cemento, il cemento, Caltagirone, il cemento, il cemento, il calcestruzzo. Non hanno un'idea di merda che non derivi da quello! Come... Io poi non ho capito questa cosa di lussuria che dice i gay molestano. Ma certo. In che senso? Devi fare le case con le feci. In Scandinavia è così. In Scandinavia raccolgono le feci, le fanno essiccare al sole e costruiscono la casa. Certo, la casa puzza di merda, ma è una casa ecologica. Lo fanno in Svezia. Senti questa cosa di lussuria. I gay molestano persino Andreotti, c'è disperazione. Beh, non ho capito molto bene questo collegamento. Si parla molto di questa lettera. Sgarbi dice che è una falsa lettera questa qua di questo 17enne che si chiama Davide, ma in realtà non si chiama Davide, a Repubblica, eh. Ora io voglio dire una cosa, uno che ha 17 anni e scrive a Repubblica, e scrive una lettera a Repubblica e dicendo che la lettera è l'unica alternativa al suicidio in una società troglodita. Io lo dico con il massimo rispetto, con il massimo rispetto, ma uno che dice che la lettera che scrive a un giornale è l'unica alternativa al suicidio ha problemi suoi che non c'entrano nulla con l'omosessualità, nulla. Ma no. Nulla, nulla, la legge contro l'omofobia, questo... nulla, niente. Dici delle cose molto gravi. Niente, no, non dico delle cose gravi, dico delle cose molto sicure. Molto gravi. Qua uno che scrive Bergo, beh, una lettera. Ma uno che ha voglia di urlare, di essere, ma che voglia di urlare? Che ha voglia che la ma scusa, ma ti pare normale uno che ti pare, no? Ma ti pare normale uno che scrive la lettera è l'unica alternativa al suicidio? Sì. È evidente, beh, che ha problemi. Il suicidio per fortuna che la scrive, perché il suicidio è una resa. Vabbè, tu sei il solito politicamente corretto. Uno che scrive così ha problemi suoi che non dipendono dalla sua omosessualità. Ma tu ti rendi conto di cosa dici? No, io dico delle cose. No, di terribile, perché cioè, dico delle cose normali. Il grido di un ragazzo. Ma quale grido? Ma le solite che cose. Non si riesce a far sentire. Senti, io non ne posso più di questo. Io sono favorevole al matrimonio, all'unione gay, a tutto quello che ti pare, ma non ne posso più di queste stupidaggini che si dicono. Del fatto che per forza bisogna essere a favore di una legge contro l'omofobia, per forza bisogna raccogliere queste cose qui quando uno scrive. Ma perché biasimare il grido di un giovane ragazzo? Ma quale grido? Dice... Ma lo dici tu che è il grido? Io non ci credo, beh, sì, non certo. Ci credo, no. E che se l'ha inventato. Non ci credo, non ci credo. Ripeto, se uno scrive che l'unica alternativa al suicidio è scrivere una lettera a Repubblica su non si sa che cosa, il problema è suo, non è nostro, no, è diverso, della società. Essere considerato. Ma che ne sai tu? Ma che ne sai? Intanto Fiorito dice che farà il filantropo, è stato condannato a 3 anni e rotti. Lussuria, dobbiamo sentire lussuria, sì. Dovrebbe sentire Taormina però sulla condanna. Ma che Taormina, senti lussuria. Allora lui disse questa cosa, disse, ah, i gay, disse, mia mamma me lo diceva sempre quando andavo a quel cinemino, di stare attento. Io ho detto, ma dico, che cinemino? C'era un cinemino dove pare che lo molestassero. Tu vedi, i gay molestano persino Andreotti, vuol dire che c'è disperazione in giro, non pensavo. Brutta battuta la Roccella su Andreotti morto. 800 24 00 24. Caro Parenzo, è con noi Eugenia Roccella, PDL, che ha partecipato ieri a Parigi alla manifestazione contro la legge sui matrimoni gay in Francia. Buonasera. Buonasera. Come sta cara Roccella? Saluto. Benissimo, grazie. Senta, che ne pensa di questa lettera di questo ragazzo? La pensa come me o come Parenzo? Perché io penso che uno che scrive una cosa del genere, che la lettera è l'unica alternativa al suicidio, ha problemi suoi che prescindono dall'omosessualità. Questa è la mia opinione. Ma io credo che una lettera a un giornale non possa essere sicuramente un'alternativa a un suicidio. Mi sembra forzato, però non voglio entrare nelle motivazioni personali di questo ragazzo, se esiste, se non esiste. Cioè anche lei pensa dal tempo e basta, insomma, non, anche lei no, pensa no. Che anche lei pensa come Sgarbi che la lettera in realtà è una mezza invenzione di, no, non credo, perché poi è stato intervistato anche oggi da Repubblica. Non penso che sia un'invenzione, no? O no? Lo so, io appunto tra l'altro non sapevo che fossi stato intervistato su Repubblica. Direi di partire dall'unica cosa certa, che è la lettera, insomma, della richiesta. Che voglio dire, se adesso andando al concreto, uno che scrive una lettera di questo tipo, secondo lei è l'Italia omofoba oppure ha problemi suoi? No, io non credo all'Italia omofoba, ormai mi sembra veramente che l'omofobia sia riservata a piccole sacche residuali. Non è un paese omofobo, lo era sicuramente un tempo, io ricordo dei titoli terrificanti, i balletti verdi, no, gli invertiti, eccetera, questo 20-30 anni fa. Adesso davvero mi sembra che questa battaglia culturale sia stata vinta, ci saranno appunto... Cioè i gay per esempio sono in molti posti di potere, si può dire o no? Direi che non c'è più un atteggiamento nei confronti dei gay, anzi c'è un atteggiamento di attenzione nei confronti del politicamente corretto, perché alcune cose che si dicevano, come posso dire, con allegra distrazione, oggi non si possono più dire. Per esempio? Però no, non le dirò certamente io. No, che cos'è che non si può più dire oggi, cioè? Cos'è ma, che c'è un c'è una tempo c'è... si dicevano anche contro le donne, voglio dire, quel genere di linguaggio un po' sguaiato, ma insomma, cioè froci, afroci, queste cose qua non si può più dire. Queste cose molto romane, così oggi sono tutti attentissimi perché si possono dire altre cose, ma queste no, quindi c'è una sorta di lei dice che una sorta di razzismo al contrario. No, razzismo no, ma diciamo che da una parte c'è molta attenzione, da altre parti meno. Però Parenzo, io lo sai che la parola che froci posso dire, non so, per esempio sul Papa si può dire quasi qualunque cosa. No, ma sì, io sono la Rocella. Sì, sta attenti. Sì, no, ma questo è vero, sul Papa ci sono vignette, ironie, cose no, di tutto. Se uno fa un'ironia sui gay, allora sei omofobo, per forza. Io, per esempio, sono stato sdoganato, cioè, mi è stato consentito, l'onorevole Concia, poco tempo fa, David, di utilizzare, come sai, la parola froci. Io la utilizzo tranquillamente, cioè, e dico che basta con questa storia dei froci che sono, lo dico in maniera senza frocio, no, dei froci che sono criminalizzati in Italia. Non è vero, esistono episodi che vanno condannati e secondo me bastano le leggi attuali. Io volevo capire dalla compagna, dalla ex compagna radicale Rocella, che saluto e abbraccio, sì, dalla ex compagna radicale Rocella, ora convertita diciamo alla Milizia Cristi. No, no, Milizia Cristi è una che dice, dice che la famiglia è un valore, vabbè. No, no, è convertita alla Milizia Cristi, ma va benissimo, mica. Ma noi siamo dei poveri pervertiti, dai, su, d'accordo, vabbè. Non ho mica detto che è della Camorra, ho detto no, che per carità, no, dunque. No, mica, lei non deve, ma volevo chiederle questo. Secondo lei, onorevole Rocella, ci si può uccidere, ci si può suicidare perché ci si sente froci e disarcionati in questa società? Disarcionati, ma parla come magna. Comunque, froci, perché guardi, ci si sente omosessuali? Si può o no? Suicidare per tanti motivi e io non entro mai nei motivi di un suicidio, perché non ce n'è mai uno solo. Ci si può certamente suicidare quando ci si sente soli, discriminati, abbandonati. Pensi a quella ragazzina vittima di bullismo, una cosa, un episodio terrificante. Io credo che se noi vogliamo stare attenti a queste cose, dobbiamo stare attenti a tutte le forme di discriminazione, non categorizzarle, cioè, sempre fuori qualcuna. Se esistesse una legge contro l'omofobia, magari come vuole qualcuno, lei per esempio sarebbe la prima a finire in tribunale? Ma io non credo proprio, però il problema non è una legge sull'omofobia, io insisto, ci sono già degli strumenti contro le discriminazioni. E questo non impedisce a episodi di bullismo, episodi di discriminazione che non sono per tutte le fragilità. Io non sono d'accordo a categorizzare le fragilità, appunto, tu perché sei, hai le lentiggini, tu perché sei. Ma perché l'omosessualità è una fragilità, secondo lei? Se c'è una discriminazione, ovviamente è una fragilità, cioè laddove viene additata una persona, io le ho detto ci sono delle sacche, sicuramente ci sono degli episodi, ma ci sono episodi di discriminazione di tutti i tipi. E io non credo che costruendo una categoria apposita noi aiutiamo qualcuno. Ma perché non dice una volta, lei è romana, può dire una volta froci, perché non si può dire più? O la parola froce, è bruttissimo non poter utilizzare una parola di questo tipo. No, infatti c'era una bella rubrica di una scrittura omosessuale sul Foglio che era froce. Come no, certo. No, a me non piace così. Non mi piace perché pure lei è un po' politicamente corretto, sta attenta perché altrimenti la martirizzano, questo è il punto. Anche questo è vero, sta attentissima. Facessi, devo dire. Sta attentissima. Se lo facessi sarei sicuramente su tutte le pagine del giornale. Ma lei ha mai dato un bacio a una donna quando era radicale? In che senso? Io ho tante amiche. No, un bacio a una donna, un bacio sulle labbra. Un bacio sulle labbra, ma sì, è una cosa amichevole. Beh, amichevole. Ha avuto la tentazione di dare un bacio vero a una donna? Guardi che succede spessissimo, tra donne. Sì, ma non... L'ha fatto, ha dato un bacio vero con la lingua, diciamo. Fatto, c'è anche una foto. No. Vabbè, ha dato però un bacio vero a una donna, cioè ha baciato una donna. Nelle manifestazioni femministe degli anni 70, certo che l'avrà fatto. La vedo un po' tentennare. No, assolutamente, guardi che non erano così le manifestazioni, erano molto allegre. Però non c'è niente di male, tra due donne, per esempio, a baciarsi per strada, no? No, no, lo dice un po' così, no. Siamo qui 800 24 00 24, mentre ripeto che a Roma ci sarebbe ballottaggio tra Alemanno e Marino, in netto vantaggio per adesso, però è tutto da vedere. Siamo con Eugenia Roccella, PDL, alcuni esponenti del PDL, lei lo sa, onorevole Roccella, come Bondi per esempio, si dicono favorevoli addirittura ad arrivare, non subito ovviamente, al matrimonio omosessuale. Che posizione è quella di Bondi? Minoritaria nel PDL? Ma penso di sì, comunque questo è un grande partito con in cui sono confluite culture molto diverse, quindi è giusto che ci siano posizioni diverse. Posizioni diverse? Che ci sia dibattito su questi temi. Però Bondi è lo stesso Bondi che mi ha chiesto, quando io ero ancora il portavoce del Save the Day, di candidarmi col PDL. Sì. Quindi è stato lui a chiedermelo. Cioè si chiarisca, dice lei. Sapeva, si chiarisca con se stesso. Io immaginavo che condividesse quella posizione, perché il Family Day è stata una grande manifestazione contro proprio il riconoscimento delle unioni civili, dico famosi. E quindi... Ma perché fa queste uscite, secondo lei? Perché è un po' sorpresa, o no? Non lo so, perché ha cambiato idea, perché ha avuto una... così che vuole rendere pubblica, perché anche dopo è un po' subalterno. Ma guardi, io penso che quel tipo di posizioni non siano posizioni liberali e siano posizioni sostanzialmente subalterne alla sinistra, però perché le vere posizioni liberali culturale. No, certo, le vere posizioni liberali quali sono? Quelle di non riconoscere le unioni civili e le Io credo che lo Stato debba entrare nella vita privata il meno possibile. Riconosce il matrimonio perché deve proteggere i figli. Quindi c'è un interesse della società a riconoscere un'istituzione che serve a tutti, perché all'interno del matrimonio si fanno i figli, si crescono i figli. E questo è un interesse importante da tutelare, cioè i figli vengono tutelati. Cioè secondo lei non si deve fare nessuna cosa, a parte il matrimonio che lei dice ovviamente no, ma nemmeno le unioni minime, cioè un minimo di unioni con alcuni diritti riconosciuti, la reversibilità della pensione o cose di questo tipo, niente? Ma a parte che se dobbiamo riconoscere la reversibilità della pensione, che è nata fra l'altro anche lì per tutelare le donne che crescevano i figli e le casalinghe, il cui lavoro di cura, lavoro casalingo non era riconosciuto, ancora oggi non è riconosciuto. Quindi la pensione di reversibilità era proprio questo, era questo senso. Ma se dovessimo riconoscerla a tutti, io penso che i conti pubblici salterebbero molto velocemente. Cioè, se la riconosciamo anche i gay salterebbero i conti pubblici, dice lei. Ma se la riconoscessimo semplicemente su una forma di unione civile. Cioè ci sarebbe una corsa alle unioni, lei dice, anche quelle fittizie, per esempio. Ma insomma, potrebbe essere, nel nostro paese è possibile. Sì, sì. Ma un bambino, secondo lei, può crescere bene all'interno di una coppia omosessuale? Guardi, su questo io conosco persone che hanno, sono omosessuali, che hanno, crescono bambini, in questo caso propri perché vengono da unioni precedenti, eccetera, eccetera, che sono ottimi genitori. Non è questo il problema, non è mai a livello individuale. Il problema è, oggi, in questa stupenda marcia che abbiamo fatto per Parigi, pienissima di giovani, strapiena di adolescenti, giovani meravigliosi che dicevano un père, une mère, c'est élémentaire, cioè un padre, una madre è elementare. Sì, però ho capito, secondo lei un bambino può crescere tranquillamente oppure viene su male? Questo è il punto, io parlo un po'... No, io glielo ho detto, non credo, sul piano individuale credo che si possa essere appunto ottimi genitori. Il problema è che in America c'era una ricerca uscita nel Natale. Vabbè, ce ne sono tante. I bambini al sesto posto come regalo di Natale vogliono un papà. Cioè, appunto, una madre e un padre. Siamo tutti quanti figli di una madre e un padre. Lei non è figlio di una madre e un padre? Sì, sì, sì, però non escludo, allora, non escludo di poter sarei potuto crescere bene anche in una, non so, crescere, sono cresciuto bene. Ma non è un caso che lei non può nascere, che nessuno di noi può nascere da una coppia dello stesso sesso. Vabbè, quella è la natura. Vabbè, questa è la natura. Ma la natura ha un suo perché, no? O sì, no? Ma c'è anche l'adozione, esiste anche l'adozione. Sì, certo, l'adozione. discriminazione, però rimedia un danno. Ma secondo lei i gay sono anche sono un po' sfortunati? Perché per esempio nella vita, per esempio quel ragazzo là che ha scritto quella lettera alla Repubblica ha detto io sono sfortunato. Secondo lei sono sfortunati? Cioè l'essere gay? No, io penso che questo sia un fatto individuale. Conosco amici gay fortunatissimi e persone sfortunatissime, cioè non credo che l'infelicità umana sia distribuita. Ma non è non credo che lei pensi che sia una malattia. Ma che scherziamo? Io non penso neanche che sia genetica, perché ho visto per esempio amiche che sono state seduttrici famose, poi invece finire sul bacio lei in una coppia. Sì, in una coppia? In una coppia lesbica. La zanzara è quell'odioso insetto. Ragazzi, qui c'è un Giuliano Ferrara, caro Parenzo, è scatenato, scatenato sul tracollo dei 5 Stelle. Senti. Grillo si fa la permanente. Grillo ha restituito tutti i soldi, fa le vacanze in Kenya, è un grande attore comico, insulta tutti e arriva sempre terzo. Scusami Giuliano, no. E poi all'altro prendila, schiazzala, ti ho beccato. Arriva sempre terzo, dice Ferrara. Come Tony Servillo. Che c'entra Tony Servillo poi? Sempre terzo arriva, è una cosa terribile, insomma. È un po' come Tony Servillo a Cannes, Grillo. Tutti quanti lo lodano e poi dopo non. La zanzara è l'imprendibile insetto, che le più volte non lo vedi mai. Spegni la luce, passa dalla TV. Ai ai, ti ha beccato, ai ai, ti ha beccato. Oh, a proposito dei matrimoni gay, della polemica nata su Repubblica dopo la lettera di quel ragazzo, la manifestazione di Parigi e tutte queste cose che sicuramente appassionano la nostra platea, voglio ricordare che cosa? Un meraviglioso Vittorio Sgarbi. Che sono contro il matrimonio, contro tutti i matrimoni. Quindi mi sta sul cazzo anche il matrimonio gay, quello eterosessuale ancora di più. Non me ne importa un cazzo il matrimonio, mi fa cagare. Sposatevi voi. Diritti, ma che cazzo di diritti? I diritti dell'uccello. Ma quali diritti? Due si amano, punto. Si lasciano. Poi uno muore. Oh, sono la cena grillini, così questi dibattiti di commedia. Ma quando poi lui sta male, chi va all'ospedale? E chi gli tiene la mano? E chi va al funerale? Oh, affanculo. Ragazzi, sarebbe il gay questo qua. È una rottura di coglioni. Va proibito per legge il matrimonio. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Primi risultati delle amministrative, a Roma si va al ballottaggio, il candidato del centro-sinistra Marino in vantaggio di 10 punti su Alemanno. Arretra ovunque il Movimento 5 Stelle, nella capitale il candidato di Grillo si ferma sotto il 15%. Forte astensione in tutti i comuni, nel complesso quasi 11 punti in meno rispetto alle precedenti amministrative. Roma quasi record, meno 20. Da Palazzo Chigi filtra soddisfazione per il risultato del voto. I partiti che sorreggono il governo non subiscono ulteriori flessioni. Letta bene la promozione europea, ma le risorse in più arriveranno solo l'anno prossimo. Sanità verso lo stop ai nuovi ticket per il 2014. Scandalo Regione Lazio, condannato a 3 anni e 4 mesi per peculato. L'ex capogruppo PDL Franco Fiorito. Il commento: mai più in politica, farò il filantropo. 20 coltellate su Fabiana, la 16enne aggredita, poi bruciata viva dal fidanzato. La giovane ha tentato di difendersi. I ragazzi delle scuole in corteo, la madre, anche il ragazzo, è vittima. Come combatte Renato Brunetta, intervistato dal TG4 in maniche di camicia durante il weekend. Beh, se la prende innanzitutto con quelli che lo attaccano dicendo che è basso, questo è giusto, per carità. Se la prendono con lei perché è basso. Beh, le pare un argomento, le pare una cosa seria, anche da parte di personalità sedicenti importanti. Mi fanno tristezza. Ma dicono che lei ha un caratteraccio, domandona del TG4, senti. È vero che lei ha un caratteraccio. Ma no, assolutamente. E io c'ho un carattere. lavoro tantissimo dalla mattina alla sera, mi piace che le cose funzionino. Io sono austro-ungarico da questo punto di vista, essendo veneziano, e penso che l'Italia abbia bisogno di regole, di disciplina, di rispettare la meritocrazia, il merito, la qualità. Io mi sono fatto da solo. Io ho un carattere, io ho un carattere. Intanto dice, ho un carattere. E lavorare, e odio chi non lavora. E tu sei un cretino, ad esempio, un cretino, che tu perdi giorno, alla zanzara e perdi giorno, che canta le canzoni, ai ai ai, zanzara parli e perdi giorno, perdi tempo tutto il giorno, dalle 18.30 alle 21 perdi tempo, non produci, e rompi i coglioni, e occupi linee telefoniche, e chiami il traffico e fai aumentare il traffico, e la borsa, e la borsa aumenta, e sei un cretino. Ma Parenzo lo pagate voi per fare la trasmissione? Lo paghiamo, purtroppo il PDL rilanciato poco, lo dovremmo pagare di più. Comunque il PDL rilanciato da Berlusconi è così forte che potrebbe candidare e fare eleggere pure una capra. Indovinate chi ha pronunciato questa frase? Il PDL rilanciato da Berlusconi è così forte che potrebbe candidare e fare eleggere pure una capra. No, troppo facile, Sgarbi, sei banale, dai, su. Il PDL rilanciato da Berlusconi è così forte che potrebbe candidare e fare eleggere pure una capra. Biancofiore. Michele da Padova, l'hai letto sul computer, dai. Michele da Padova. No. Sì, buonasera. Dica. È sempre un gran provocatore Sgarbi, in effetti. Si può anche essere d'accordo con lui. Vabbè, poi... Io volevo intervenire per quello che aveva detto all'inizio della trasmissione, no? Aveva detto quel ragazzo di 17 anni, secondo me è solo un problema suo personale, non c'entra niente. Ma scusi un attimo, uno che scrive l'alternativa a scrivere una lettera è il suicidio, ma le pare una cosa normale? Ma dai, su, smettiamola con questa buffonata. L'alternativa a scrivere una lettera in cui lamento l'Italia omofoba, l'Italia che non dà i diritti, è il suicidio. Ma dai, su. Ma l'alternativa sicuramente è darsi da fare e difendere, diciamo così, le proprie convinzioni, i propri diritti. Però siccome le opinioni sono sempre opinioni, quindi bisogna vedere su cosa sono basate. Vabbè, allora... Io ricordo semplicemente uno studio che ha commissionato il governo irlandese circa 4 anni fa. Il governo irlandese 4 anni fa. Sentiamo, avanti. Esattamente. Sentiamo. Vabbè, non capisco, è un'ironia. No, sentiamo. Cioè, alle 19.25 devo stare ad ascoltare lo studio del governo irlandese di 4 anni fa. E vabbè, ascoltiamo pure questa. Siamo arrivati anche qui. Avanti. Michele, dica. Questo studio che si occupava dei tassi di suicidio negli adolescenti, in età scolare, metteva in luce proprio il fatto che la discriminazione nei confronti dei gay era una delle motivazioni principali per cui gli adolescenti tentavano il suicidio. Bene, in quel paese. Bene, in quel paese. Si può dire che l'Irlanda in molti aspetti assomiglia all'Italia, soprattutto diciamo così, per la cultura cattolica molto presente. Si può anche trovare la differenza che il governo irlandese, guardi, c'è gente, c'è studi e l'Italia no. Bene, benissimo. C'è gente che si suicida anche perché ti dicono cretino, stupido, perché a scuola ti trattano male. Roberto da Roma, buonasera Roberto. Bene, allora, visto che c'ho voglia di trattare male qualcuno, io voglio far trattare male io. Ma perché a proposito di discriminazione ce l'avete sempre con i lobbisti? Ma chi ce l'ha con i lobbisti? Io non ce l'ho per niente con i lobbisti. Il centrale della democrazia sono nei lobby, lo dovete dire. Ma scusi, perché tira fuori questo argomento lei oggi alle 19.26? Perché tira fuori questo argomento? Perché io volevo tirare fuori un altro momento, ma poi nel gioco in cui si viene ricontattati capita fuori argomento. Roberto, io non ho mai criminalizzato le lobby, tutt'altro, le vorrei trasparenti, libere come negli Stati Uniti, ma per cui figuriamoci. No, siamo tutti registrati, si va lì, si sa chi è, c'è il tesserino. Adesso le racconto una cosa, se posso. Prego. Ma di che cosa parla? Non lo so, delle lobby, vuole parlare di lobby. Avanti, poi? Allora, ma lei lo sa chi è questa gente che poi dice i lobbisti, bisogna fare la legge contro i lobbisti perché bisogna proteggere la democrazia? Gente tipo il signor Zanda, che poi è quello che fa le raccomandazioni per l'assunzione. Ma certo, no? Certo. Capito? Cioè, questi sono i nostri politici. Io mi ricordo quando stavamo fuori lì dal Parlamento durante il decreto liberalizzazione di Monti o il decreto Salva Italia, no? Che a un certo punto arrivano tutti i commessi, tutti di corsa, dovete andare via, ci hanno chiuso in una stanza, no? Dico, ma chi l'ha deciso sta cosa che non possiamo circolare? È un tesserino visibile, sono riconosciuto. il senatore Zanda ha fatto una protesta scritta al presidente del Senato, e allora lo stesso Zanda che raccomanda una persona poi, con una lettera, che poi va a raccomandare le persone anche saggiamente dicendo questo non so chi è ma assumetelo perché me l'hanno segnalato, cioè della roba. Allora viva Dio che ci sono i lobbisti che rappresentano. Vabbè, in questo caso lei ha un conflitto di interessi perché difende se stesso. Comunque sono d'accordo con lei. Luca da Roma, buonasera Luca. Buonasera. Io sono contentissimo di sentirvi, vi ringrazio perché fate un programma meraviglioso, però questa Radio Casalecco ormai è scelta nel turpiloquio. Radio, scusi. Ormai oggi Cruciani non dipende. Radio chi? Questa non è casa, mi sembra che sia Radio Casalecco, Casaleggio. Ma Luca, no? Innanzitutto parli italiano, primo, un minimo di italiano, minimo è di base, cioè almeno con le parole. Casalecco, chi è il signor Casalecco? Non lo conosco io. Casalecco, chi è? Casaleggio, perché no, è confuso nel capolo con Casaleggio. Ma non sa nemmeno il nome, ma non sa nemmeno il nome lei. Cioè, Radio Casaleggio, sì, di cosa? Il nome è Casaleggio. Ma chi è, quale lecchinaggio nei confronti del 5 Stelle di Casaleggio? Ma di che sta parlando? Il suo, signor Cruciani, il suo lecchinaggio, che oggi non fa perché ha visto che la debacle totale di Grillo è stata pesante anche per lei, immagino. A me non me ne frega niente, né di Grillo né di Casaleggio, ancora non ha capito lei, se non ha capito, se lo metta bene in testa, se lo ficchi in quel minimo di cervello che ha, minimo. Zanzare, dietro i vetri in montagna, in collina, in campagna, dovrebbe fare un monumento al Partito Democratico, non so, forse lo farà, lo fa. Ad Arcore, farà un mausoleo al PD che gli ha fatto dominare la scena politica per 20 anni, e la stessa cosa tra un po' farà anche Grillo a Genova. Sant'Anchè sulla Boccassini, liquida tutte come puttane. Sì, ma rivendico con orgoglio quella frase. Mi dispiace che quella frase l'abbia detta una donna, perché abbiamo combattuto e stiamo combattendo per la parità e poi le liquida tutte come puttane. Io credo che sia stato un grande errore per noi donne. Ben tranquillo nella mia stanza. Ma la frase del giorno resta quella durante un comizio di Grillo. Secondo Grillo, la vera cura contro la prostata è una sola. Sentite. La prostata, per curarla, l'unica cosa, scusate la volgarità, bisogna trombare! Hai capito? Lo dice il British Medical Journal. Sì! O se no, fai altre cose. Il British Medical Journal dice 21 eiaculazioni al mese. Io sono a 18, quindi 21. Ragazzi, a quanto siete? A che quota siete mensile per salvarvi? Oggi è il 20-27, no? Beh, dunque ci siamo, A quanto sei a maggio tu, Parenzo? Di la verità, grande trasparenza. Qui davanti a Grillo ci vuole grande trasparenza. Quanto sei? A maggio? Maggio, zero. A maggio, ma contano anche i numeri negativi? No, conta anche l'autoerotismo, come disse Cosa. Basta. Conta anche l'autoerotismo. Quanto sei? Ma quello sai, quella è una roba che va rivalutata. Beh, sì, immagino, per quello che ti riguarda, immagino. Perché è una bella cosa, è una bella cosa. No, voglio dire, fare sesso con una persona di cui ti fidi. Ah beh, certo. Vabbè, a quanto sei? Pare, su. Che no, di una persona che non ti tradirà mai. Sì, capito? Non girare intorno però. A quanto sei oggi che siamo al 27 del mese? No, ma credo che sia poco interessante per il grande pubblico. Forse è interessante per quegli intellettuali camionisti che ogni tanto chiamano. Certo, per loro è interessante sicuramente questo argomento. O la signora Bocca, come si chiama? Quell'altra lì, la Bocca di Velluto. Chi era quell'altra signora? No, quello era il coso, ma non hai capito niente. Che c'entra? Bocca di Velluto era la persona evocata dall'edicolante, ma non esisteva, certo, nella realtà. Certo. Beatrice da Firenze, buonasera. Per quei quattro spazi. Ma non lo vuoi dire? Non lo vuoi dire il 27 del mese a che punto sei, No, perché non solo come quegli sporcaccioni che telefonano e mettono in piazza anche la loro intimità. Sì, vabbè. Beatrice, su. Buonasera, signor Cruciani. Buonasera, dica. Allora, Beatrice da Firenze, transessuale, sì? Dirigente di una multinazionale internazionale. Sì, vabbè, adesso, allora, ho telefonato, ma di che stiamo a parlare? Su, dirigente di una multinazionale transessuale, ma non ci credo, su, dai. Vabbè, gli mando i documenti per attestarlo. No, per carità, allora, perché sarebbe una cosa straordinaria, ma non penso... Ma guardi, ci sono transessuali, avvocati, dottori, non facciamo tutte le puttane. No, ma chi non lo dice? No, assolutamente, figuriamoci, io non ho nessun problema. Beatrice, lei è transessuale, no? Mi spieghi, ci sono diversi tipi di transessuali, di che tipo? Io sono una transessuale operata. Operata. Ah, ecco, esatto. Operata, cioè? Operata, cioè me lo sono tagliato. Se l'è tagliato. Lei come si chiamava, scusi, in origine? Mario. Mario, lei si è tagliato, se l'è tagliato ed è transessuale a tutti gli effetti. È quello, esatto, che non ha avuto il coraggio di fare, diciamo, la signora Lussuria, per esempio, no? Esatto, diciamo ex transessuale per la precisione, perché il transessuale è quando transitiamo, nel momento che transitiamo. Ora, esatto, sarei una donna. Lei è dirigente. Per lo Stato italiano sono una donna. Ah, per lo Stato italiano come funziona? Oh. A un certo punto c'è il riconoscimento, che succede? Certo, c'è documenti femminili, codice fiscale femminile. La mia telefonata stasera era, sì, proprio per dire questo. Con una legge del 1982, la 184, sì, gli uomini biologicamente, noi siamo biologicamente uomini ancora, sì, si possono sposare. Sì. Io il 6 luglio mi sposo con il mio compagno. Sì. E non solo, ora io ho 47 anni, non lo farò mai, ma io potrei anche adottare. Vabbè, perché lei questa diventa... è una contraddizione. Questa è una contraddizione perché vabbè, lei nel frattempo, diciamo, è diventato uomini biologici. Scusi, però lei nel frattempo è diventato femmina, signora Beatrice. Ho capito, Mario esternamente, Beatrice. Biologicamente sono ancora uomo. Vabbè, ho capito, ma lei ha i documenti da femmina. D'accordo, però chi è contro il matrimonio omosessuale, sì, una motivazione è quello che non possono procreare. Sì. Allora, noi siamo uomini biologici, sì, con documenti femminili, naturalmente sterili, sì, e però lo Stato italiano ci permette di sposarci. Vabbè. E di adottare, e questa è una contraddizione della legge italiana. In parte sì, in parte sì. Senta, Beatrice, in totale. Scusi un attimo, no, totale no, perché lei comunque ha dei documenti da femmina e sposa un uomo, per cui lei è Beatrice, non so come si chiama di cognome, noi non lo diciamo mai il cognome, ma comunque lei è Beatrice Pincopallo e sposa un, che ne so, come si chiama il suo compagno che sposa? Si chiama Andrea. Andrea, lei è Beatrice che sposa Andrea, diciamo, siamo nella regolarità. Poi biologicamente lei dice che è ancora uomo a tutti gli effetti ed effettivamente, certo, è così. Ma scusi, è stato XY. È stato drammatico il momento del taglio? Assolutamente no. Assolutamente no. No, lo rifarei mille volte. Lo rifarebbe mille volte. Scusi un attimo, ma lei è dirigente di una multinazionale addirittura? Cioè, dirigente nel senso, ora non è che voglio calarmi, non voglio fare il nome della multinazionale internazionale. Io ho incominciato dal basso e sono in un posto, diciamo, abbastanza importante. Scusi, ha cominciato quando era maschio? Sì. E dopo? E dopo, grazie a questa multinazionale che non ha fatto assolutamente discriminazione, ho scalato vari gradini. Ma lei, come dice Sgarbi, ma perché si vuole sposare? Che gli frega di sposarsi? Perché amo mio marito, mio futuro marito. Vabbè, sì, non è che necessariamente uno che ama... no? Scusami, Cruciani, è una donna? Sì. È una donna? E come tutte le donne, come molte donne, ha l'ambizione di farsi sposare dall'amato, è una cosa meravigliosa. Ma ha ragione Grillo quando dice che per combattere la balena, lo può sapere, per combattere la prostata bisogna trombare? Io la prostata, sì, ce l'ho ancora, perché le donne transessuali operate, la prostata non viene tolta. Per cui anche questa dimostrazione che siamo uomini biologici. Non siamo mai donne. Cioè lei ha ancora la prostata. Al 100%. Lei ha ancora la... Scusi, ma tutto questo il suo compagno sa tutto? Sì, ovviamente. Certamente, dall'inizio. Vabbè, l'abbraccio. Marco da Firenze, buonasera, rimaniamo a Firenze. Marco. Buonasera, Luciani, buonasera Firenze. Allora, al di là di uno la può pensare politicamente, della prostata è vero, è successo a me. Perché io ho subito una prostatite acuta, sono andato dall'urologo e lui mi ha detto aumenta l'attività sessuale. Ma dai, ma non ci posso credere, dai, ma te su. Lo giuro, te lo giuro. Ma dai, Luciano, Marco, su, dai, non è giuro, possibile, giuro, dai. Luciani, io me lo sono fatto scrivere sulla ricetta. Vabbè, ma ho capito, ma moglie, se uno... Ma se la moglie non ci credeva, non ci credeva. Nel allora, senso che lei, io... lei andava un po' in bianco con sua moglie, a quel punto sua moglie diceva per non farti venire la prostata, no, la trombiamo. Semplicemente di aumentare l'attività sessuale. Cioè, ma uno vero, più tromba, meno. Praticamente, sì, siccome io avevo un'esperienza brutta, mio padre si è ammalato di prostata, mi sono messo. È una cosa pazzesca. Mi sto facendo controllare. E questo, ma io ho il documento scritto, ma è vero, e l'urologo è anche un urologo. Allora, scusate, però io voglio capire, Parenzo, ma qual è lo spunto? Perché Grillo a un certo punto, che è ancora un comico straordinario, resta un comico straordinario e forse tornerà a fare il comico, ha cominciato a parlare di prostata. Ci deve essere qualche diavolo di motivo, no? Comunque, Marco, lei ha, che ne so, sarà uno spunto di qualcosa. Comunque, lei, caro Marco, ha avuto dall'urologo questo tipo di... Ma faccio, guarda, ma ha applicato poi questa cosa o no? Il problema è questo. Ah, vabbè, ho capito. Il problema è quello. Comunque, diciamo, un pochino si è intensificato. Dai, faccio il tassista, io ho i vari cuscini antiprostata e tutti... Perché è vero, è vero. Dopo 50 anni il consiglio è farsi controllare una volta l'anno. Non solo l'antigene, ma purtroppo vabbè, anche adesso, una visita... D'accordo, adesso, la... questo qua adesso non siamo, alla trasmissione di medicina. Caro Marco, no, ma fatto... però tanto per lei dire... dice Beppe Grillo ha ragione. Sì, da quel punto di vista, politicamente uno può pensare come vuole, ma quello c'è ragione. Paolo, provincia di Milano, buonasera. Buonasera, Cruciani. Dica. Innanzitutto, mentre aspettavo, ho ammazzato la prima zanzara milanese. Vabbè, che dobbiamo fare, Paolo? Secondariamente, in effetti l'italiano guarda molto YouPorn dalle statistiche, quindi probabilmente mal di prostata ce n'è ben poco a sentire quello che ha detto Grillo. Vabbè, comunque? Comunque, diciamo che l'argomento più interessante è questo discussione sulla omosessualità, sui matrimoni gay, eccetera, in un momento di forte crisi economica, è bello spostare l'attenzione dalla crisi economica che porta solamente suicidi, frustrazioni e distruzioni a motivi più futili, così si discutono in casa mentre ascoltano la zanzara di Cruciani, ovvero sia... Paolo, questa mi sembra una stronzata, francamente. Cioè, lo so, infatti. Mi sembra una stronzata, non è che nessuno vuole distogliere dal... A me sembra che il tentativo di, non vostro ovviamente, ma dei media in tutti i modi di distogliere l'attenzione, perché altrimenti le persone... Ma distogliere l'attenzione, dai, che ognuno parla di quello che vuole. Ma di che stiamo parlando? Renato da Rimini, mi faccia ascoltare Renato, su. Sì, buonasera. Renato? Buonasera, sì. Renato? Ok. Renato? Sì, sono qua. Allora, andiamo, su. Chi è? La zanzara, sono Cruciani, buonasera, dica. Chi è Cruciani in persona? Sì, ma è lei che ha chiamato, Renato, su, dai. Certo, aspetta un attimo, sono qua. Ecco, volevo dire... Credo, con comodo, faccia con comodo. Volevo dire che lei forse è uno straordinario psicologo. In che senso, scusi? Ascoltatori. Io tra l'altro l'ascolto volentieri, anzi mi diverto proprio come quello là che arriva al casello. Allora volevo chiederle, siccome non l'ho sentita tutta, ma l'ho sentito all'inizio quando lei citava la letterina del ragazzino lì. Sì, che quella di 17 anni, sì. Ecco, allora, io capisco che lei deve divertire, io mi diverto da morire, però voglio dire, è così sicuro, le sue certezze sono per me straordinarie, come lei ha delle certezze quando fa quelle affermazioni, no? Per il ragazzino diceva che doveva praticamente... Io non ho detto che non ha problemi, io ho detto semplicemente che uno che scrive... Che uno che scrive una lettera... Lei ha studiato psicologia, non è quello, ma che lei c'entra? Lei ne sa più di Freud o dei nostri Musatti, lei ne sa tanto. Senta, caro Renato... Se conviene aprire, è vero, uno studio, lei farebbe quattrini. Sì, guardi, sono molto bravo in questa cosa, devo dire la verità, nell'analisi psicologica del cervello altrui. Comunque, al di là di questa stupidaggine, Renato, il problema fondamentale è questo, uno che scrive una cosa a Repubblica dicendo che l'alternativa alla lettera è il suicidio, io francamente non ci credo, credo che abbia problemi suoi. Poi se vogliamo fare la retorica di uno che scrive una lettera perché il disagio omosessuale eccetera eccetera, dite quello che vi pare. Io la penso in questo modo: uno che scrive una lettera, posto che sia vero, sicuramente è vero perché poi oggi c'è stata un'intervista, dicendo che l'unica alternativa che c'è alla scrittura di una lettera è il suicidio, per me ha problemi suoi che non riguardano la questione omosessuale. Beh, danzano come zanzare queste ombre. sulla strada e cadono le ceneri della città. La strada. Eccoci qui, 800 24 00 24, con Pippo Civati, Partito Democratico. Buonasera. Buonasera. Come va? Come sta? Bene. Senta, però questo PD, che secondo lei se la passa malissimo o se la passerebbe malissimo dopo l'alleanza con Berlusconi, in realtà pare non andare così male, secondo questi risultati. Come la mettiamo? C'è una... Alle comunali va benissimo il PD. Che vuol dire? Certo. Va bene solo alle comunali? Perché? Vabbè, perché si votava per le politiche. Ho capito, però sempre elezioni sono. Se uno... quindi ha vinto Letta, perché Marino, che non era d'accordo col governo Letta, ha fatto vincere Letta. E invece il fatto che Marino ha preso, non so quanto prenderà alla fine, insomma, ha preso quello che ha preso, che sì, significa? Io sono contentissimo che Marino sia andato bene. Questo lo so. Cioè, non capisco. Marino era scettico come me sul governo PD e PDL, per esempio. Cioè, ha vinto a Roma, per adesso, un candidato scettico nei confronti del governo PD-PDL. No, ma siccome lei lo citava come argomento a favore di Letta, faccio notare che Marino è, per esempio, molto vicino a Rodotà, quell'area politica. Sì, vero, vero. Non vero. Riducibile, non riducibile al PD, quello più vicino a Letta, ecco, mi pare di poter dire. È vero, però uno va sempre a votare il Partito Democratico, cioè non è che Marino... meno male che lo fa ancora. Lei dice per votare il Partito Democratico ci vogliono candidati come... Guardi, la Serracchiani ha detto che si vota, che hanno vinto lei e Marino nonostante il PD. È una frase un po' forte, però insomma, come vede le letture del voto possono essere tante. Cioè Marino, secondo lei, vince nonostante il PD? Vince come espressione di un PD che fa alcune battaglie, che ha una linea riconoscibile, che insomma abbiamo sostenuto peraltro in tempi non sospetti con Ignazio Marino. No, Marino è sicuramente un anti-berlusconiano insomma tosto. No, ma quello non c'è dubbio, vicino era la cosiddetta sinistra del Partito Democratico, così per semplificare, su questo non c'è dubbio. Lei pensa invece che con un altro candidato non sarebbe stato il risultato, non sarebbe stato lo stesso, cioè con un candidato magari più moderato, tra virgolette? Il dato romano è un dato in cui l'astensionismo è stato dilagante, questo ha penalizzato, credo, soprattutto chi l'astensionismo l'ha cavalcato, insomma, in qualche modo, non l'aveva recuperato, che è Beppe Grillo, insomma, anche se loro vanno sempre un po' peggio alle comunali, va detto che insomma c'è un risultato veramente deludente, immagino, per loro. No, questo non c'è dubbio. E Marino è sicuramente uno dei candidati che al Movimento 5 Stelle davano più fastidio dal punto di vista. Perché lei, Marino, ha preso voti anche dal 5 Stelle. Ma secondo me può essere, sì, non è un po' presto per fare i flussi, però è sicuramente un candidato che copriva anche quella parte, appunto, diciamo Rodotà, per capirci. Sì, sì. Parenzo, ci sei o sei scomparso? Che sono questi uccellini che sento? Ci vai? Dov'è? In campagna? Sento degli uccellini. No, sono a casa, sul balcone, tra l'altro sento un ritorno tremendo. Come al solito, sono problemi nostri che si ripetono continuamente. Prima o poi elimineremo i collegamenti, parleremo da soli, e Parenzo, così almeno... volevo capire, signor Civati... Buonasera, quindi possiamo, come dire, signor Civati, escludere che il merito di questa vittoria sia del signor Letta? Questo si può dire, credo. Beh, secondo me è sbagliato ragionare in questi termini, non è né merito né colpa di Letta se succedono delle cose amministrative, è troppo presto per valutarlo. Posso dire che il caso di Roma, che è quello più politico, è un dato un po' difficile da attribuire al governo PD-PDL, ecco, lo dico con molto rispetto per l'intelligenza di tutti. Cioè è difficile attribuire al successo, per adesso parziale, perché ovviamente c'è un secondo turno, comunque all'ottimo risultato di Marino, è difficile attribuirlo, ahimè, al governo. Su questo devo dire, sono d'accordo pure io. Posso anche dire che è sbagliato attribuirlo a quelli che sono contro il governo, mi spiego, era una partita diversa, interpretata con un centro-sinistra abbastanza a sinistra. Le ricordo che i renziani volevano ritirare Marino perché era troppo di sinistra. Ma come no, me lo ricordo, no? All'inizio sì, come no, me lo ricordo bene, perché qua durante l'elezione del Presidente della Repubblica, poco dopo, dice, beh, adesso come facciamo questo candidato troppo a sinistra, no? Che facciamo? Cui, alla fine vede, gli argomenti sono reversibili. Io sono contento che il PD sia andato bene a Roma e in altre città, voglio aspettare i dati per capire se... se in valori assoluti c'è, come dire, una rispondenza con la nostra tradizione in alcuni posti, ma insomma nessuno giocava a far perdere il PD. No, vabbè, quello è chiaro. Poi alla fine Epifani vi siete sentiti o no? Perché lei ha detto nei giorni scorsi che ha sentito tutti tranne lei. Ma sì, ma cioè, non è un problema. Me l'hanno chiesto, se Epifani mi aveva cercato, la risposta è no. E ancora non è accaduto. Ma lei si vuole... lei si vuole avrà candidare? Da fare, avrà da sentire persone più rilevanti all'interno del PD, al governo, insomma, da fare. Senta, ma lei non ha intenzione di candidarsi alla segreteria del Partito Democratico? Certo, se ci fanno fare il congresso, sì. Ah, se ci fanno fare il congresso, lei si candida? Sicuramente, sì, perché sa che lo vogliono spostare, no? Come no, lo so, cioè lo vogliono adesso spostare, forse con la vittoria di Marino lo anticipano, perché dice le cose sono molto vanno molto a non c'è una guida così certa, insomma, non c'è una guida così sicura nel per partito. Ora no. Scusi un attimo, ma perché Epifani ha detto che faremo il congresso entro l'anno, qualcuno dice addirittura entro un anno, prima si diceva ottobre, anzi si diceva subito, alla fine quando bisogna farlo secondo lei? No, beh, noi abbiamo appena ha votato che si fa entro ottobre. Questo quindi resta la cosa. Sì. Quando abbiamo votato Epifani abbiamo votato questa cosa. Perché Epifani poi sono uscito ha parlato entro l'anno? Che ne so, la direzione è convocata il 4 di giugno con calma e quindi ci vedremo il 4 di giugno e ne parleremo. Ma sarebbe una cosa grave, una specie di golpe non farlo entro ottobre? No, non sarebbe un golpe, ma sarebbe un errore politico, secondo me, non fare subito un congresso, anche perché il segretario eletto con le primarie, con il voto degli elettori della base, si è dimesso, non è Epifani, con rispetto parlando. No, beh, certo, questo... Parenzo, ci sei o sei anche tu in mezzo agli uccellini? Non ho capito. No, quali uccelli? No, stai pensando alla questione della prostata di Grillo, no? Che diceva beh, Grillo. A proposito, signor Civati, lei crede a questa è una cosa importante. Lei che è vicino a Grillo... C'è una teoria di Grillo espressa durante un comizio, forse io ho detto, è anche per questo che Grillo ha ricominciato a fare il comico in maniera straordinaria e perde voti, perché insomma dire a un comizio una cosa di questo tipo, non so se l'ha sentita, però gliela faccio risentire, Civati, perché è piuttosto divertente questa cosa di Grillo. La prostata per curarla, l'unica cosa, scusate, la volgarità, bisogna trombare! Hai capito? Lo dice il British Medical Journal, sì! O se no fai altre cose. Il British Medical Journal dice 21 eiaculazioni al mese, io sono a 18, quindi 21. Non me moleste moschi. Lei com'è messo? Non me moleste moschi. Civati? Come? Sì. Come è messo lei? Come? Beh, insomma, ho 37 anni, dai. Cioè, ho capito, ha 10 anni meno di me, questo adesso va benissimo, però lei dice non ci posso pensare a questa cosa qua. No, ha ragione lei, però Grillo è fortissimo come comico, mi pare che negli ultimi settimane abbia perso un po' il punto politico, diciamo così. Ma qualche deputato potrebbe lei che li conosce bene, si è parlato nei giorni scorsi di questa specie di fronda all'interno di Grillo, vabbè, adesso non stiamo troppo a pensare a queste cose che sembrano delle cose da risico quasi, però potrebbe perdere dei deputati, secondo lei, dopo questa sconfitta? Non lo so se perde i deputati, però quelle ragioni che ho cercato di esprimere negli scorsi giorni non erano così campate per aria. Cioè, nel Movimento 5 Stelle è anche una linea, come dire, più moderata, che però insomma forse potrebbe portare qualche cambiamento davvero nelle cose, perché in questo momento Grillo mi sembra molto isolato sull'Aventino. Cioè, rispetto a chi? Continua a sbraitare, continua a urlare contro tutto e tutti, però alla fine... I risultati non ci sono. Scusi un attimo, ma c'è qualche deputato o senatore dei 5 Stelle che parla con lei e dice abbiamo fatto una grande stronzata a non fare questo governo col Partito Democratico? Proprio, ci sono persone che vengono da lei e le dicono una cosa di questo tipo? Ci sono persone che la pensano così, forse si esprimono in modo paradossalmente meno pesante, anche pur essendo grillini, però... Però lo dicono, lo pensano, di avere perso un'occasione, è una sensazione palpabile tra persone che dicono anche la linea di Grillo è tutta sbagliata da questo punto di vista, cioè si sentono un po' smarriti di fronte al fatto che potevano pesare, non contano un cazzo, adesso io lo dico in maniera esplicita, però è così. Sì, non so nemmeno se sia la linea di Grillo, diciamo, per come sono andate le cose, loro si sentono in difficoltà perché volevano fare delle cose che fanno più fatica a fare stando all'opposizione di un governo totalizzante come è quello PD-PDL. Ma scusi un attimo, perché lei dice non può essere la può anche non essere la linea di Grillo? Perché invece a Grillo è stata un po'... Perché c'è stata molta casualità anche nell'atteggiamento loro, molta ingenuità, la sottovalutazione di atteggiamenti che potevano prevalere nel PD, insomma, l'immaginare che Rodotà potesse crescere dopo la quarta votazione, per dire, era un calcolo politico sbagliatissimo. Tu sei come una piccola zanzara che l'estate mi tortura, mi rende isterico. Tu sei come una piccola zanzara che la notte mi... Oh, vogliamo sentire un po' di Santanchè, Parenzo, così ti svegli, va. La Santanchè quando dice il Movimento 5 Stelle non sputano, sparano. Sparano. A cosa si riferisce? A Becchi, a cosa si riferisce? Non vi arrabbiate con Grillo per la violenza del linguaggio, perché lei può criticare in qualunque modo Ingroia, ma sputare in faccia forse è un termine di cui dovrebbe chiedere scusa. Ma no, scusate, ma faccio l'ultima cosa. Il problema è che non sputano in faccia, sparano, che è una cosa un po' diversa. Diventare matto se tu sei gelosa più di me. Scappo sotto al letto, non parlare, non gridare. Alfano, l'Italia non è una sala parto contro lo Ius Soli, il grande argomento di Alfano, che pensa a una sorta di invasione, però l'ha detto anche il presidente del Senato, sulle puerpere, l'invasione in Italia se ci fosse lo Ius Soli. Sentiamo Alfano. Trasformare l'Italia in un luogo attraversando il quale tu diventi italiano se passi da una sala parto, questo è ovvio. Quello no. Tortura. E poi il segretario del Partito Democratico Epifani che dice Berlusconi va sconfitto politicamente, se no fa come Grillo, cioè contro la questione dell'ineleggibilità, eccetera eccetera. Gli avversari politici si battono politicamente, io su questo non ho dubbi. A noi può succedere, lo dico soprattutto a coloro che pensano che una volta dichiarato ineleggibile Berlusconi, noi sconfiggiamo Berlusconi, che potremmo avere Berlusconi fuori dal Parlamento a guida del PDL, come Grillo è a guida del suo movimento, senza averlo sconfitto. È meglio lavorare, non voglio discutere con te. Diventare... Eccoci, 800-24-00-24 con David Parenzo in collegamento da Roma, Pippo Civati in collegamento da casa sua. Ecco, ma scusa. Dimmi. No, diamo subito un aggiornamento anche al signor Civati, sì, del PD. Cioè, i due candidati che noi non dico abbiamo sostenuto, ma che abbiamo ospitato nelle nostre trasmissioni. Ma chi sei che cioè, abbiamo sostenuto? Che dici? Stai buono, cioè il signor Marra, fermo inchiodato a quell'1,4%. Ma chi se ne frega di Marra, su, dai, poi? E la seconda, il barone Colucci. Ma che gliene frega da Civati del barone Colucci? No, ma deve sapere in che cinepraio e in che roba è ma finito. Lo sa, cioè, dove tu, si trova, lo sa benissimo. Tu dove hai si portato trova il barone Colucci, le vado a diventare quasi fosse, no? Meglio, ho fatto prendere il 2,5% a Monopoli, che scherzi. E questo è il potenziale della zanzara. Io volevo dire questo, cioè il nostro partito, la nostra lista, la zanzara, ha preso 2,5 a Monopoli e l'1,4 a Roma con Marra. Vale, sì, questo. Noi sì, valiamo sì, il 2,5. Beh, adesso se è così non valiamo un cazzo, scusa. 2,5 sì, a Monopoli 2,5 sono poi poca roba, Monopoli 2,5. Beh, a Monopoli però valere 2,5, la zanzara vale 2,5 a Monopoli. Sì, ma certo, ma questo è buono. Con un candidato giusto e non il tuo amico barone Colucci. Ma quello è candidato giustissimo, come no? È candidato giustissimo. Quel personaggio incredibile, il barone Colucci. Senta, Civati, lo sai di essere alleato col partito di Fiorito che ha preso oggi 3 anni e rotti? E certo che lo so, purtroppo. Anche se poi l'hanno cacciato da PDL, però insomma sempre ci mancherebbe, sempre lì bazzica. Berlusconi ineleggibile, ormai è un argomento chiuso? Mi pare di sì, ma per motivi politici, nel senso che come ha detto Epifani il PD ha scelto di allearsi con Berlusconi, è un po' complicato adesso definirlo ineleggibile, lo dico con amarezza, non tanto per l'ineleggibilità ma per come sono andate le cose, insomma mi pare difficile che il Partito Democratico e la maggioranza che sostiene il governo Letta possano permettersi una scelta del genere. Cioè ormai non si può fare più nulla, pensare alla questione del conflitto di interessi, no, diciamo, si può fare una legge sul conflitto di interessi per il futuro che sia, come dire, dignitosa e che eviti certi equivoci. Sì, però non con questo governo, diciamo, no? Beh, però se il Parlamento è sovrano, in qualche vabbè, modo ho capito, ma dimenticati. Lei sa benissimo che però se il PD dovesse votare col Movimento 5 Stelle una legge sul conflitto di interessi, il governo cade un secondo prima, non un secondo dopo. Ma non lo so, ma cade per questo motivo, forse cade anche per altri, vediamo, io sono ancora alla ricerca di capire che cosa intende fare questo governo, cosa quello anche noi, fare, anche noi non l'abbiamo capito bene, però per esempio c'è questa cosa importante, un po' grillina, del finanziamento pubblico dei partiti, no? Cioè è una cosa importante, almeno un punto fermo c'è, anche se io dico bisogna vedere, perché c'è stato un tweet per il momento, è un consiglio dei ministri, siamo a un consiglio dei ministri, è un tweet. Ora poi vedremo, sicuramente Letta ha detto che se entro l'estate poi farà un decreto, bisogna vedere sto decreto. Lei a proposito è a favore dell'eliminazione totale del finanziamento pubblico, sì o no? No, infatti ho presentato un progetto di riforma, stiamo lavorando ancora per la verità, infatti ci piacerebbe confrontarci con il governo sul merito poi della proposta per riformulare il finanziamento, renderlo più volontario e automatico, ma conservarne, come dire, una porzione decorosa e intelligente. Insomma, mi pare che Grillo e chi anche nel PD come Renzi sostengono l'abolizione totale non siano soddisfattissimi di questa presa di posizione di Letta, che non è un annullamento del finanziamento pubblico, ma una profonda revisione. Sì, d'accordo, però lei non io è per... Sono d'accordo, sono più d'accordo con Letta che con Grillo, ecco. Sì, anche se in realtà Letta ha detto che si arriverà alla questione dell'eliminazione solo attraverso l'uno per mille, lo zero per... insomma, quello che appunto, sarà. Ma l'uno per mille è una mia proposta di 2 mesi fa, per cui non posso sconfessarla. Bisogna capire il resto del dispositivo. Ma secondo lei ci vuole ancora un po' di finanziamento pubblico? Cioè ci vuole un modo per finanziare la politica, ne so, il 20%, il 30%? Ma guardi, è molto complicato il tema, però l'uno per mille, per esempio, nella dichiarazione dei redditi, con la tutela della privacy che dovrebbe essere già... almeno a noi era arrivato un parere positivo, è un fatto secondo me più intelligente il rimborso automatico che abbiamo ora, no? Che è una formula, come dire, un po' scontata, invece lì si chiede, in questi giorni i cittadini preparano la loro dichiarazione di redditi, si chiede se dare fiducia ad un partito piuttosto che a un movimento o qualcun altro, insomma ovviamente nel modo più trasparente per il destinatario e più invece a tutela della privacy di chi anche quella è una forma anche quella è una forma di finanziamento pubblico indiretto, perché comunque... esatto, appunto, quella è una forma di finanziamento, per cui non è un'abolizione, come vede quella che Letta propone, non è l'abolizione del finanziamento pubblico, è una strategia per renderlo più volontario e meno automatico come è ora, e anche quando Epifani dice sì mi dica. No, se fosse così io sarei d'accordo con il governo, però anche come diceva lei, per ora anch'io leggo i tweet e non facendo parte del governo non ho informazioni più dettagliate. Senta una cosa, ma invece la questione del finanziamento, cioè Letta ha posto o si arriva entro l'estate a una definizione oppure agisco per decreto. Però c'è la volontà di eliminare totalmente il finanziamento pubblico, cioè eliminarlo proprio completamente, arrivare solo e semplicemente a qualche forma di finanziamento attraverso appunto la dichiarazione dei redditi. Lei mi sembra contrario all'eliminazione totale? No, l'eliminazione totale non mi pare che sia l'obiettivo del governo. Quel Parlamento. No, non mi pare che sia nemmeno maggioritaria all'interno del PD, nemmeno nel PDL, se ho capito bene. No, il PDL no. Chiaro che ne fa una bandiera. Quello che dico io è che noi potremmo rinunciare ai soldi che non abbiamo speso in questa campagna elettorale, per esempio, per dare un segnale. Sono più o meno 3/4 del finanziamento che abbiamo ricevuto come Partito Democratico. Se li lasciassimo alle casse dello Stato sarebbe un bel segnale. Ma bisogna rinunciare adesso a questa tranche di luglio della legge precedente, secondo lei? Bisogna rinunciare... Beh, sì, perché se lei ha speso... No, alla tranche totale, alla tranche totale, come ha fatto il Movimento 5 Stelle, che dice... Ma no, perché i soldi che sono stati impegnati e spesi correttamente, secondo me è giusto che rimangano, come dire, è un po' come sono i crediti delle imprese, noi non so dove li troveremmo, no, ora, però per il futuro, come dire, tutto deve essere esattamente rovesciato, cioè non ci deve essere un forfè automatico dentro al quale si largheggi. Sì, ho capito. Però, deve essere il contrario. Però è anche vero che Epifani ha sostenuto un'altra cosa, cioè siccome ci sono i dipendenti del partito bisogna fare le cose in maniera graduale. Sì, bisogna fare le cose in maniera graduale perché tutte le riforme devono avere una gradualità, dopodiché se ci sono i dipendenti all'interno del partito forse è il caso di sapere quanti sono, in che condizioni si trovano e forse dare anche informazioni rispetto a questa situazione. Come lei saprà, i parlamentari del PD destinano una quota significativa della loro indennità al PD. Cioè non è uno scandalo se qualcuno rimane in mezzo alla strada, cioè come tutte le aziende sto possono... No, dicendo il contrario, sto dicendo che ci sono 400 deputati del Partito Democratico che versano ogni mese una quota significativa del loro stipendio, per capirci, ma proprio per queste situazioni. Vorrei capire a quanti soldi ne abbiamo bisogno, insomma. Parenzo? Parenzo? No, volevo capire da Civati, che parla sempre chiaro, ma questo Epifani, no? Lo possiamo sì. considerare un grande leader carismatico del PD? Insomma, il futuro è nelle sue mani. Non lo so, si deve candidare al congresso per valutarlo. Io no, per lei. Per me, io non sono molto, come dire, vicino ai Epifani, come lei può immaginare. Anche perché ma non, non lo vede, non incarna proprio quello spirito del il leader, no? Del PD, quello che le piazze, che ma quello non, quello non lo pensa, questo non lo pensa nessuno, Parenzo. Però guardi, bisogna capire dove portiamo il PD. Magari il PD ha bisogno di un leader così, se prevale una certa logica. Se ne prevale un'altra, forse ci vuole qualcuno un po' diverso così. Però insomma, i congressi si fanno apposta non tanto per scegliere il leader, ma per scegliere anche la linea politica e gli obiettivi che ci si pone per il futuro. Ma ultimamente lei ha capito la linea politica di Renzi, per esempio? Io no. No, del PD. Faccio un po' fatica, lo dico senza malizia, perché su Renzi poi viene ripresa alle agenzie. Io non ho capito, perché prima dice che tifa Letta, ho letto il suo libro in cui c'è addirittura un elogio di Enrico Letta, dei motivi per cui l'hanno portato al governo, questa storia di quei giorni. E poi in realtà dice: facciamo la legge elettorale e torniamo a votare, che è peggio di Civati, così, sono il più cattivo di Civati. Per cui in realtà non ha ancora deciso cosa fare, diciamola tutta. No, lui ovviamente pensa a candidarsi a premier quando le cose, la campagna elettorale si aprirà. Il problema che mi pare urgente per lui capire, prima di tutti gli altri, è quando, banalmente. Però insomma, continua a fregarsene un po' del partito, cioè di prendersi il partito, credo che di gli prendersi interessi quella partita, gli interessa candidarsi a premier sulla base di legittimi motivi, perché è il più popolare di tutti, è popolare a sinistra quanto a destra, è un uomo sicuramente carismatico, lui sì, no, visto che facevamo l'esempio precedente, e quindi io non trovo che sia sbagliato, vorrei capirne di più anch'io, perché è un po' difficile seguirlo tutto qui, quindi prendere anche le misure e ragionare insieme. Non me moleste moschito. Non mi molesta. Siamo qui con Antonio, provincia di Firenze. Buonasera Antonio. Buonasera Luciani. Dica. Allora, io volevo dire una cosa sola. Ascoltando questi politici, ascoltando anche voi, ma magari a volte ascoltando anche me, e scureggia a tutti il cervello. Cioè? Ma scureggia forte. Cos'è che scureggia? Fa? Ah, scureggia. Scureggia, sì, a Firenze si dice ureggia. Scureggia il cervello, sì. Ci scureggia il cervello, perché questi e parlano bene, gli opinionisti fuori alla televisione, tante belle storie. Lei quando la intervista i politici, tipo quello prima, insomma, anche a lei un po', a tutti, a Parenzo voi, mamma mia, Parenzo c'ha le coliche proprio, c'ha le coliche di cervello, di curegge proprio, ma abbondanti. Ma che vuol dire che c'ha le coliche al cervello? Scusa, Antonio. Allora, la cureggia è quando uno butta fuori aria dal culo, giusto? Non c'è dubbio. Allora? Ecco, allora, a volte, non a volte, ma il 90% degli italiani, cioè, invece di uscire le cureggie dal culo, le scanda il cervello. Mi faccia un esempio, scusi, caro Antonio, mi faccia un esempio. Un esempio, allora, gliene fa uno, tipo, che gli ha detto Grillo oggi? Perché io ho 61 anni, insomma, un pochino me ne rendo conto di quello che gli ha detto. Le sono tutte cazzate, ma sono cazzate forse. Beh, però allora, alcuni medici dicono che davvero è così. La premessa era questa di Grillo, cioè, poi la sentiamo. No. Poi lo Oddio, sentiamo. Io Grillo. Guardi, Grillo l'ammiro, perché Grillo gli ha portato un po' la politica fuori dagli schemi, diciamo, che c'è stato fino a ora, no? Perché comunque anche questi grillini ormai si adattano alle dichiarazioni ridicole. De Vito che sta dicendo a Sky TG 24 il nostro è un calo ma non flop, poi se la prende con i giornalisti che non gli hanno dato spazio, una cosa patetica. Ma anche gli dice che Marini ora gli ha vinto, cioè Marini ha vinto. Marino, però, Marino. Marino, scusi, ora mi è venuto Marino. Vabbè, comunque sono vabbè, tutti Antonio. Sono tutti scureggioni. Anche lei dal cervello non è che gli esce proprio. Ma io glielo ho detto, sono il primo che gli curiggi il cervello. A tutti ci curiggi il cervello, perché se no non si ascolterebbero nemmeno più. Perché questa gente non si merita più nemmeno di essere. Soprattutto quelli che vanno a dire le sue opinioni alla televisione. Ma quante cazzate dicono? Parenzo, dimmi, Parenzo. No, voglio capire dal professore, dal professore di flatulenza. Parenzo, glielo ho detto ora e mi cureggio il cervello. Come può essere un professore io? Beh, scusi, però lei è professore di flatulenze, perché quello... Sì. Sì. Quello lei è adatto a insegnare. Ma lei, no, ma lei quasi Parenzo, lei non gli ho detto, a lei non gli figlia le curicce il cervello, a lei gli figlia proprio le coliche d'aria del cervello. Guardi, una volta ascoltarla lei si capisce bene, e lei lascia proprio un culo aperto, un culo che poi si trasforma in cervello. E la fa delle diarree. Hai capito, Parenzo? Diarree di aria. Diarree di aria, ma non dai uno... culo, Parenzo, non dai culo, dai cervello. Ci mancava l'intellettuale dell'inizio settimana, ci mancava. Andiamo a Lorenzo da Roma. Buonasera, Lorenzo. Da Roma. Allora... Buonasera a tutti. Grillo certe volte dice delle cose importanti perché le ha sentite dire, le si può curare il calore. Nel caso della prostata, del calore. Ah, le pompe, quelle che si ricorda per l'energia. Sì, tutto sì, quel discorso. Comunque, lasciamo perdere. In questo caso qui ha detto una cosa giusta, perché la prostata è un organo, e come tutti gli organi, come il braccio, se si ferma per un mese, poi ha bisogno di una riabilitazione. Nel caso della prostata, tenendola ferma, si atrofizza ed è più soggetta al carcinoma prostatico. Ecco qual era la funzione della prostata, deve essere sempre in azione più possibile, e hanno visto scientificamente che persone che non possono avere un'attività sessuale, tipo i diabetici o altri problemi, poi sono soggetti al carcinoma. Dunque ha ragione in questo caso, Sì, ma lui sente, capta delle cose, gliele dicono. No, l'ha letto sul libro del British Medical Journal, non so dove. Sì, ma questa è una cosa giusta, proprio anatomicamente. Se lei si ferma per un mese con un braccio, poi deve riabilitarlo. Sì. Se la ferma, invece, se si ferma la prostata, è soggetta al carcinoma. Poi, ovviamente, chi ha diabete non si ferma per un mese, si ferma per un periodo molto lungo. Ecco per cui la funzione importante della prostata di essere... Ma noi siamo nati per fare quell'operazione. Per cui bloccando, non è una cosa naturale, ma bloccando l'attività sessuale... È come se una macchina lì va sempre in seconda, in prima e non va in quinta. Hai capito, Parenzo? Impara. No, non ho capito, questa dotta lectio magistralis del signore deriva da un'esperienza di vita quotidiana, mi pare. Ma no, un medico sarà il signor Lorenzo. Sì, ma che medico? È un medico, giusto? Ma che medico? Vabbè, ma non c'è niente di male, non vedo qual è la cosa strana. Ma no, assolutamente. Ma è medico lei? Sì, anatomia comparata. Anatomia comparata, tutto nasce da che cosa, caro Parenzo? Tutto nasce da questa considerazione di Grillo sul palco, sentiamo. Un uomo si è tolto la prostata, perché aveva paura del tumore alla prostata. Hanno fatto in Svizzera, hanno preso 1000 pensionati morti a 90 anni, hanno fatto l'autopsia a 1000 pensionati morti di vecchiaia. Bene, il 90% aveva il tumore alla prostata, ma non erano morti per il tumore alla prostata. Il 100% avevano il tumore alla tiroide, ma non erano morti per il tumore della tiroide. La prostata serve solo una cosa. Se leggete le riviste sensate scientifiche, British Medical Journal, la prostata per noi uomini, tu non far finta che non ci... che cominci a gocciolare tra un po'. Allora, la prostata per curarla... L'unica cosa, scusate la volgarità, bisogna trombare! È la zanzara capricciosa. Vabbè, tutto nasceva da una discussione su Angelina Jolie e togliersi le cose. Poi non si capisce perché i comizi di Grillo elettorali prendano questa direzione, no? Comunque, hai sentito, in Svizzera lo fanno! È evidente! Ma è chiaro, ma anche sulla costruzione delle case, dell'Australia, ma è ovunque, si costruisce con le feci, con la merda, si essica il sole, con i raggi del sole, tutto naturale. Scusi, naturale. Grillo, ma lei quante volte tromba? Ma io devo trombare da mia moglie non è scappata di casa perché dice che gliene ho fatte, dice che ogni volta che va al cesso c'è la telecamera, c'è il casaleggio, dice che ogni volta le ho tolto l'acqua e si è rotto i coglioni, la volevo trombare 25 volte in una settimana per la prosa, a un certo punto si è stufata e è andata via, ma di media è così, di media deve essere così. Ma tu, lei dice che in Germania fanno così? In Germania lo fanno, ma ovunque nei paesi del nord, in Svezia, in Norvegia, addirittura in Norvegia non lavora, il lavoro non serve, stanno in casa, poi fa anche freddo in Norvegia, che cazzo esci a fare, cosa lavori? Cioè, tu dici, non ci sono prostatici perché trombano? Ma non serve, stai con l'iPad a casa, trombi, scarichi, stai lì, non c'è acqua, caghi, usi la cacca per pulirti, la pelle diventa morbida, ma è evidente, l'uso naturale del corpo, in Germania lo fanno. Prendato, che ormai è tutto finito. Gabriele da Roma, buonasera Gabriele. Buonasera signor Crociali, buonasera. Dica, dica. Non so se volete continuare a parlare di prostate, perché io sono in attesa da un po', volevo intervenire sull'argomento iniziale. Ma lei può fare quello che vuole. Ah, ok. No, io avevo sentito la deputata del PDL, e poi siccome vi seguo sempre, avevo sentito anche parlare lei giorni addietro sul fatto che a Roma si vive bene, eccetera. Allora, sicuramente rispetto agli anni 90, io ho 38 anni, quando ero piccolo, quindi rispetto agli anni 90 si vive meglio. Ma lei è omosessuale? Perché, sì. Allora, dunque? Diciamo che sicuramente noi siamo meglio, nel senso anche che... lei deve scrivere una lettera perché sennò si suicida? No. Io voglio dire un'altra cosa, voglio dire che sicuramente siamo progrediti, sicuramente Roma rispetto ad altre zone dunque? È meglio, sicuramente se va a Milano c'è il palcoscenico, i gay sono al centro dell'attenzione, però volevo dire alla deputata del PDL che se lei si fa un giretto in Calabria e in altre zone, ha fatto anche il commerciale, sono andato in giro, cioè lì non si può dire niente, ti guardano dall'alto in basso. Comunque ci sono dei giudizi pesanti, l'Italia è arretrata culturalmente, lo sappiamo benissimo, rispetto ad altri paesi europei, quindi io non parlo per conto degli omosessuali, parlo in generale per le minoranze. In Italia si deve fare una battaglia a livello culturale per cercare di far progredire questo paese che in 20 anni è tornato indietro, e comunque non è cresciuto, quindi volevo solo dire questo, non è un problema di omosessuali o no. Sicuramente Roma si può camminare, sicuramente se ci sono dei deficienti ti insultano, però si può camminare, se va a Reggio Calabria non può camminare mano nella mano con qualcuno. Bah, non lo so, se non si può camminare mano nella mano con qualcuno a Reggio Calabria, non lo so. Comunque sicuramente in qualche zona d'Italia è un problema, ma non è che se tu metti la legge contro l'omofobia cambia qualcosa, cioè non cambia nulla. No, questo sono d'accordo, però allora, penso appunto, che combattere per i diritti civili, si ingolfano i tribunali di cause assurde con gente che dice afroci e magari uno lo querela perché c'è la legge contro l'omofobia, dai, non diciamo cose allucinanti. No, io non dico questo, penso che concorderete con me, come altri intellettuali che vivono in questo paese, che comunque bisogna fare qualcosa per cercare di... Ma fare qualcosa cosa? Bisogna a ritirare sopra l'asticella della cultura in Italia. Ma bisogna fare operazioni appunto in cui... Questo diciamo, sto dicendo io. Poi la lettera è una cosa... Io non entro nel merito perché ognuno ha una sua vita e i suoi problemi. Però penso che da parte di chi ha potere e quindi di chi ha ascolto come voi e come tutti i media bisogna fare uno sforzo per cercare di ritirare su la l'asticella, perché sennò i giovani ce li perdiamo, la gente col cervello va fuori, sentiamo e Vendola, fuori ci prendono per il culo a noi. Sentiamo Vendola, sentiamo Vendola che si appropria del risultato di Marino da presidente della Puglia in trasferta a Roma a commentare al comitato di Marino, cosa da pazzi. Di allontanamento certo. Allora Vendola ha risposto diciamo alla prima domanda che le volevo fare, le giro la domanda di Abrignani del PDL qua da studio che dice, si sente che Marino ha già vinto a Roma? Ora dico, che ci fa Vendola che è presidente della Puglia al comitato di Marino che è candidato sindaco di Roma? No, voi me lo dovete spiegare. Ma che c'entra? Ma cosa ci fa il leader di SEL, presidente della Puglia a Roma a commentare i risultati di Marino? Ma guarda che alle volte ma sì, ho capito, ma non ha senso, ma alle volte fai delle polemiche che manderebbero ai matti anche va bene tutto. Ma che cazzo di modo di ragionare, va bene tutto. Roberto da Puglia è il governatore della Puglia, punto, dai. È anche incidentalmente segretario di sto partito che si chiama SEL, è venuto 2 ore a Roma per seguire lo spoglio ed è andato al comitato di Marino che c'è bisogno di venire a Roma a seguire lo spoglio. Roberto da Cuneo, no, ma buonasera. Voglio dire, ma perché quello non può lavorare con l'iPad a Roma, non ho Roberto capito. Da Cuneo, buonasera. Buonasera a lei. Dica. Ultimamente questa trasmissione sembra piuttosto che la verità stronzate o addirittura il nulla. Ma non c'è la verità, non esiste la verità. Bravo, però parlare di finanziamento pubblico ai partiti quando ci sono 20 anni di amministrazione che hanno una volta il patrimonio dello Stato italiano bilanciava il debito pubblico. Adesso il patrimonio dello Stato italiano è un quinto del debito pubblico, quindi bastava una cattivissima e malversa, una delinquenziale amministrazione del patrimonio pubblico. Non è bastato quello, hanno preso anche fior di finanziamenti. A questo punto vanno tagliati tutti i viveri e fare delle elezioni è una buffonata infinita. Se non cambiano le condizioni, se non mettono il taglio della mano in Italia, l'impiccagione, l'evirazione. Che cos'è che dovrebbero mettere, scusi? Ma di tutto e di più, di tutto e di più. Dare un po' di responsabilità a gente che dice di assumersi delle responsabilità e non paga mai niente. Di quali responsabilità si parla in Italia? Di Pulcinella? Roberto, i ladri però non vanno in galera. Sì, ho capito, ma diciamo una cosa concreta, però, al di là di queste lucubrazioni, di questi annunci. Ma non sono le lucubrazioni, sono dati reali. I soldi di mio padre, di mio nonno e del suo, che sono serviti a produrre aziende statali e parastatali che producevano il 50% vabbè, del PIL. Dunque, dove sono? Dove sono? Chi li ha presi? Dove sono? Dunque, cosa bisogna fare secondo lei, professore? Non so, io chiedo a lei il consiglio, visto che parla di politica e parla con dei pseudopolitici, chiedo, ma chi bisognerebbe votare? Quale trans, quale persona seria, quale partito in queste condizioni? Chiedo a lei, se no diventa corretto scherzare e dissacrare tutto come lei sta facendo, ma questo è, come dire, è uno schiaffo a un popolo che non ha saputo, come dire, dirigere una politica. Allora lì mi trova concorde col suo pensiero. Ma non ho un pensiero io, questo è il punto. Giuseppe, provincia di Caserta, buonasera. Giuseppe, dica. Buonasera. Vada. No, mi chiedevo, io sono nato nel 52 e la riforma Fornero non ha avuto la stessa gradualità che chiede Civati per l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. E allora? Le pare normale? Ma non lo so, ma è roba passata, chi se ne frega, su Giuseppe, qual è il problema? Ma come, chi se ne frega? È importante, per lei se ne frega, non se ne frega, o se ne frega. Vabbè, allora, ma perché ci vuole parlare di questo? E per quanto lo riguarda, lei ci chiama dicendo un anno dopo, un anno e mezzo dopo l'introduzione della riforma Fornero che doveva essere graduale, ma chi se ne frega? Sta dicendo una stronzata. L'ho chiamato perché ho sentito Civati dire che pretende la gradualità nell'abolizione del finanziamento. Ma non so nemmeno se era d'accordo con la riforma Fornero, Civati, che ne so io. Ma che secca questa non è una risposta intelligente la sua. Vabbè. Io ho risposto. E mi chiedevo perché Civati non ha avuto la stessa sensibilità. E che ne so io, non lo so. Francesco D'Ancona, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Io volevo dire che, come avete potuto sentire, Grillo c'ha ragione, non solo o meglio, c'ha ragione anche questa volta sul riguardo la prostata, per cui forse diventa la voce più ascoltabile che c'è al momento sulla piazza. E poi volevo aggiungere anche un'altra cosa. In che cosa. Senso, scusi, non ho capito, oltre ad avere ragione nelle cose politiche ha ragione pure ridere, sulle cose mediche. Farà tutto quello che volete, farà incavolare le persone, però guardi un po' che una notizia anche seppur buffa, burlesca, però è una notizia corretta dal punto di vista della realtà delle cose. E io credo che attualmente sia una persona ancora ascoltabile, a differenza di Civati, dei signori del PD, del PDL e quant'altro. E poi mi volevo fare una domanda, mi volete spiegare a che cosa serve la Corte dei Conti nel nostro governo? C'è una Corte dei Conti? E dove è stata la Corte dei Conti? Perché i nostri politici non hanno mai messo in campo la Corte dei Conti, non l'hanno mai utilizzata? Può essere che attualmente come che vuol dire? Non ci sono i soldi che l'hanno mai utilizzata, cosa vuol dire? Come strumento per avere i bilanci in positivo. Ma e non perché in purtroppo se non c'è una legge, ma scusi, ma come si fa proprio? Se non c'è una legge, ma comunque è noiosissima questa cosa, ma se non c'è una legge che prevede ma che l'obbligo. Ma come fa a dire che è noiosissima? Una cosa no, che voglio dirle. Non riescono a pagare neanche la buona uscita di Andreotti, ma figuriamoci. Le sto spiegando. Poi della Francesco, buona uscita di Francesco, a me di spiegare a cosa serve e a cosa non serve la Corte dei Conti non me ne può fregare di meno. Abbiamo con noi il grande Monio Vadia, buonasera. Ah, meno male. Grazie. Come sta? Presentazione generosa. Come non sta? Mi lamento, non mi rispetto al paese, io sto bene. Parenzo, allora vuoi salutare il tuo meno amico? Meno male che siamo riusciti a coinvolgere, finalmente alziamo un po' il livello. Beh, dipende. Magari l'abbassiamo, che ne sappiamo. Noi lo abbassiamo. Non date nulla per scontato. Appunto, non diamo assolutamente nulla per scontato. Senta, Ovadia, le piace il governo PD-PDL? No, assolutamente no. No, Fosse per lei esplicito. Fosse per lei. No, fosse per me, cosa vuole? Io sono solo un cittadino elettore, ma non mi piace, lo considero un governo basato sui reciproci ricatti, un governo di stallo, ne parlo tecnicamente al di là delle mie idee che sono da tutt'altra parte. Ma proprio è un governo, non so come dire, paralizzato, che potrà fare molto molto poco, ma forse dobbiamo essere onesti e dire che forse oramai la politica in quanto tale, la partitica, mi scusi, non la politica, la partitica può fare molto poco in quanto tale. Diciamo ormai che le fa un governo del PD, diciamo della sinistra con Berlusconi, le fa abbastanza schifo, diciamo la verità. Orrore. Non diciamo così, io non amo, guardi, lasciamo magari le parole forti, non offendiamo i ventri delicati dei più. Beh, diciamo siamo che abituati. Non mi piace, recisamente non mi piace, mi aspettavo altro, credo in altro e ritengo che il paese abbia bisogno di altro, il paese ha bisogno di tornare a vivere, questo è un paese depresso. Però scusi Ovadia, ma è un paese dove però Berlusconi continua a dare le carte, diciamo la verità, perché comunque nonostante tutto un anno e mezzo fa lei l'avrebbe detta una cosa del genere, no? Se la sarebbe immaginato? No, io non l'avrei detto e bisogna dare atto che vede, c'è un problema, l'equilibrio precario del paese e la strana alchimia dell'elettorato fa sì che Berlusconi riesca sempre a essere in una posizione o da governare o da ricattare chi governa o comunque da tenerlo in scacco. Questo è anche, appartiene un pochettino a questo anomalo paese che siamo noi, in cui c'è una parte dell'elettorato, ed è sufficiente per tenere in scacco il paese, c'è una parte dell'elettorato che non sta a guardare quello che succede e vota sulla base, a mio parere, di pulsioni puramente emotive. Pulsioni emotive. Ma secondo lei gli elettori di Berlusconi sono dei coglioni? No, non dico questo. Però? No, io non do giudizi di questo merito. Questo gli dà Berlusconi su noi, sugli altri che non lo votano. Quindi gli lascio. Però chi sono gli elettori di Berlusconi? No, però sono elettori che hanno, secondo me, una scarsa capacità critica, cioè di pensare in termini critici, perché Berlusconi ha fatto delle cose che hanno portato delle conseguenze. Se qualcuno che è un fedele, io per esempio faccio fatica a misurarmi con i fedeli ciechi. I fedeli ciechi sono quelli che credono. C'è gente che crede a Berlusconi a prescindere da quello che... Cioè, per cui gli elettori di Berlusconi la maggior parte sono fedeli ciechi. Sono molto fideisti. Molto sono fideisti. Allora trovano le ragioni a posteriori. Siccome Berlusconi va bene, allora vanno a cercare a posteriori le ragioni. E come si può in questo caso... Ma sono, come si può dire, sono un po' sempliciotti, sono un po' primitivi, guardi. Si può dire che sono primitivi? Sì, no, posso farle un piccolo, come no? Piccolissimo e brevissimo. Il primo articolo della Costituzione italiana dice che l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, punto. La sovranità appartiene al popolo, virgola, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Questa terza parte, gli elettori di Berlusconi vogliono deliberatamente ignorarla. In che oppure senso? La ignorano. Perché dice lei dice Berlusconi la viola e allora loro non se ne rendono conto. Berlusconi la nega. Berlusconi nega che in Italia la sovranità vera appartiene alla Costituzione. Ma insomma, adesso questo non è che viola. Non al plebiscitarismo, è talmente evidente. Ecco, e allora capisce, questo vuol dire che avere il prosciutto davanti agli occhi, avere rifiuta la legge fondamentale del nostro paese. Cioè lei dice che la maggior parte degli elettori di Berlusconi se ne fottono della Costituzione. Non ho detto se ne fottono, ma preferiscono ignorarla per essere certificati nella loro fede. Non è questione di coglioneria, è questione di fideismo. Di fronte agli atti di fede ci sono questi atti. Ma sono anche meno preparati, più ignoranti, meno... Non necessariamente, ce ne sono alcuni, per esempio, che sono preparati e che amano Berlusconi perché preferiscono vivere in un paese con meno controlli di legalità. Quindi sono molto preparati per i loro interessi. Ah, quello sì, dice lei. Dunque, si dividono tra chi... Ci sono invece molti, anche persone che hanno una... diciamo non hanno avuto l'opportunità di avere una formazione per molteplici ragioni, che vedono quelle televisioni, sono incantati da questa forma di televisione che io considero spazzatura, però questa è una mia opinione. Sì, cioè Mediaset, dice lei, in particolare? Non solo Mediaset, la Rai ha la sua santa manina. Dov'è che non andrebbe lei? Dov'è che non andrebbe? Dalla D'Urso andrebbe mai lei? Decisamente no. Quella è televisione spazzatura. Ma non è un giudizio, Non è un giudizio sulla D'Urso. È semplicemente che io non ci andrei. Come in certi talk show io non vado. Tipo? Ma tipo abbastanza in generale. Sì. Ma non vado perché il talk show tende a usare quello che sei con una strategia che io ho, non dico studiato, ma così con un minimo... di acume ho visto, per esempio, i tempi di interruzione, l'entrata dell'ospite, sono tutte strategie che ti impediscono di fare discorsi. Cioè, quando lei vede la Santanchè in televisione, a che pensa, Ovadia? Mi dica la verità. Ma guardi, la Santanchè appartiene a un tipo umano molto, come dire, passionale e, secondo me, tendenzialmente obnubilato dalla sua appartenenza, che naturalmente ragiona sulla base della passione totale e naturalmente le passioni non sono giudicabili se non... Che passione ha Berlusconi? In quanto tali, no? Allora, la Santanchè, secondo me, non dà giudizi articolati e politici. Da giudizi viscerali, cosa vuole che le dica? Che ne so, ma io penso che quando si entra in politica, e le dico qual è il grande guaio della politica italiana, per la quale lo sottoporrei a esame psicologico tutti quelli che vogliono fare politica, il narcisismo, il narcisismo ci ha devastato. Io faccio il teatrante perché sono un narcisista, i teatranti falliti vanno in politica sperando di fare teatro per il loro narcisismo irrisolto. Però è anche vero, Ovadia, che la politica è un po' teatro, cioè è un po' scena, è un po' carisma, è un po' comunicazione, dunque sono due campi molto simili. Lei ha ragione, è pessimo teatro. Lo so, sarà pessimo, però c'è il pessimo e magari c'è invece un altro tipo di... Quello di Grillo com'è invece? Guardi, Grillo non si possono spendere poche parole su Grillo. Vabbè, così... Grillo rappresenta una novità, oltretutto io lo conosco, un artista che stimo moltissimo, mi piacerebbe avere un tempo più articolato. Secondo me Grillo è un uomo che ha avuto delle grandi intuizioni e adesso deve trasformarle in fattività politica nella distanza media e lunga, perché nel breve periodo l'hanno dimostrato le rivoluzioni. Ci sono dei momenti espansivi come parto una rivoluzione, succedono cose meravigliose, ma poi avere la tenuta è il grande problema. Lo so, infatti, e questo credo che sia un problema che lui deve affrontare. Non dico che non ne è capace, ma è... Lei l'ha votato? Lei l'ha votato, Movadia? No, io non ho votato per Grillo, io ho votato per Ingroia, l'ho esplicitato, ho votato per Ingroia alla Camera e ho votato per Sella al Senato, perché io non volevo dare scuse al centro-sinistra per dire è stata colpa vostra per la storia del famoso voto utile. Parenzo? Ma non è servito a niente. No, volevo, sono un uomo di sinistra. Volevo capire da Moni se alla fine era più comico il Grillo politico o il Berlusconi politico. Beh, diciamo una cosa. Grillo sa far ridere. Berlusconi fa molto ridere, ma non sa far ridere. Senta mi questa. Occupo di mi occupo di umorismo ebraico. Senta, sta a far ridere, perché per essere un grande umorista bisogna soprattutto avere una cognizione del dolore. Se no, dell'umorismo non si è capito niente. Berlusconi è molto lontano da questo. Senta questa cosa di Grillo sulla prostata a Roma un giorno fa, due giorni fa. La prostata, per curarla, l'unica cosa, scusate la volgarità, bisogna trombare! Hai capito? Lo dice il British Medical Journal. Sì! O se no, fai altre cose. Il British Medical Journal dice 21 eiaculazioni al mese. Io sono a 18, quindi 21. Beh, poi a un certo punto parlava con quello che, no, che faceva la... Che raccontava il comizio ai sordomuti, che aveva fatto, no, aveva simulato. Sì, ma... sentiamo questa cosa qua con prego. Come l'hai fatta? Come no? Ah! Grande. E gli trombano anche i sordi, cosa c'è? Adesso mica rincoglionizzano al sordo, mica scherzo. Allora. Anche i sordi. Ha sentito, Vadia? Lei quante volte? No, non ho ben capito cosa ha detto. La prima parte sì, no. E tecnicamente ha ragione. Quello che considerano tutti i proctologi, dopo l'intervento bisogna fare sesso. È l'unico modo di riprendere la funzione. Anche prima, in realtà, non solo dopo. Cioè, prima è segno di buona salute e così si evitano molte frustrazioni. Lei a quant'è al mese? Grillo dice che bisogna stare sulle 20. No, guardi, io sono un uomo anziano, non posso millantare. Beh, ho 77 anni. Sono diciamo nel quadro dei limiti fisiologici della mia età, e le dirò una cosa. Sono, come posso dire, un uomo da un certo punto di vista, sa com'è bello andare avanti negli anni. Cioè? Non ho rimpianti di gioventù. E men che meno di deliri priapici. Ah no, cioè ha messo... No, proprio per niente. Attaccato... Ma a parte attaccato, è proprio una questione che certe cose sono attivate dal meccanismo delle illusioni, delle finzioni e anche di, diciamo, di certe energie. Gli ormoni circolano, tu li prendi molto sul serio. Prendi molto, molto, molto meno sul serio i tuoi ormoni andando avanti negli anni, non gli dai troppo. Vabbè, però ha visto Berlusconi a 75 anni com'è? Guardi, io posso dire una cosa. Siccome non posso credergli sulla parola Berlusconi e non ho nessun interesse a constatare degli su, dica pure, tanto qual è il problema, cioè siamo in un paese dove ancora si può parlare liberamente, anche Berlusconi ha il diritto di dire di sé quello che vuole, non so. Sa, ci sono quei racconti, no? Sì. Mi sembrano il racconto del pescatore sulle misure del pesce, lasci stare, cioè. Sono robe da barzellette da prima media. Siamo qui con Monio Vadia, che sarà in estate in scena con diversi spettacoli in giro per l'Italia. Davide Parenzo, sempre in collegamento da Roma. E volevo chiedere a Monio Vadia una cosa su Brunetta. Quando vede Brunetta ormai impazzare ovunque, a cosa pensa? Ma guardi, non so cosa dire. Secondo me posso dire al di là del bene e del male. Dica al di là del bene e del male. Che ne pensa di Brunetta? Ma guardi, non voglio esprimere giudizi su Brunetta, poi in camera caritate te lo dirò. No, perché in camera caritate? Davvero, non voglio in questo momento esprimere giudizi su Brunetta, davvero. Trovo una cosa devo dire, trovo veramente infame sbeffeggiarlo per il suo aspetto fisico, questa è veramente una carognata, chiunque sia Brunetta, io penso, voglio dire, molto male di Brunetta, però questa è una vera carognata, non si fa. Dunque anche Dario Fo ha fatto una carognata? Mi dispiace, sì, io sono un amico e ho una stima profonda, per me è il maestro Dario Fo. Però? È veramente, lo stimo in tutto e per tutto, però non si sbeffeggia una persona per ciò che è, ma per ciò che fa, per ciò che pensa e dice, ma non per ciò che è. Cioè è una lezione grossa, La sinistra ha dato questa lezione, è la civiltà proprio dell'uomo che proprio i progressisti, la sinistra ha sancito. Però un sacco di gente se la prende, un sacco di gente se la prende per Brunetta, per la sua bassezza, diciamo la verità. Ironizza sulla sua bassezza, ironizza sulla sua altezza. Ma è meglio far riferimento, non, Brunetta, diciamo, ci sono talmente tante critiche che si possono rivolgere a Brunetta che c'è solo da sbizzarrirsi volendo. Non c'è bisogno di fare riferimento a ciò che lui è. Cioè, questo è un po' come reato di clandestinità, non so come dire. Uno è in uno status, non si può criminalizzare lo status, tantomeno irridarlo e sbeffeggiarlo. Non va bene, non va bene. Cioè, è un boomerang. No, no, giusto, giusto, giusto. Applauso per Mario Vaida per questa cosa qua. Applauso, applauso, applauso, applauso, applauso, eccolo qui. Grazie, siete troppo generosi. No, siamo generosi, è quello che è. No, ma hai visto, volevo far notare a Monio Vadia questo, che risentendo questa battuta sulla prostata di Grillo, battuta che tra l'altro sembra parlasse seriamente, alla fine è sempre più simile a Berlusconi, cioè anche Berlusconi ha introdotto nella politica l'elemento del sesso, cioè li rende molto comuni. Beh, ne parla spesso nei suoi comizi di sesso. Guardate, se volete, se posso permettermi un riferimento colto, se volete capire tutto su Berlusconi, potere e sesso, leggete Eros e Priapo di Gadda, che era riferito a Mussolini. È perfetto per Berlusconi. Perché? È un libro geniale. Per... proprio perché descrive il rapporto sesso-potere, priapismo, come era Mussolini. Mussolini era, cioè, da questo punto di vista Berlusconi è uguale a Mussolini nel rapporto, diciamo, col sesso. Il suo atteggiamento, il suo pensiero e le sue manifestazioni, da questo punto di vista, sono molto simili a quello che era il Giuse Buonanima. Ma senta, ma il PD, poi la lascio, il PD alleato di Berlusconi, che fine farà secondo lei? Guardi, le dico una cosa, i profeti, quelli che profetizzavano sul futuro nell'ebraismo erano i falsi profeti, e se ci beccavano erano ancora più falsi. Vabbè, però la sua profetizza piuttosto sul passato. No, le dico una cosa, quello che io penso del PD. Il problema del PD e non è che cosa sarà di lui, ma il problema del PD è sapere che cos'è, perché quelli del PD stessi non lo sanno che cos'è il PD. Sì. Chi lo sa, è il grande enigma. Il PD secondo me non è mai nato, non è ancora nato, magari nasce, ma non è ancora nato, è una sorta di ectoplasma. Se è uscito da un bestiario di Borges, non si capisce cosa sono. Io ho anche tantissimi amici nel PD, ho tanti amici che votano PD a cui voglio un bene dell'anima, intendiamoci, però... sarebbe bello capire che partito. Ma adesso quando li sente e sono alleati con Berlusconi, come, che fa? Li consola, li redarguisce, li rimprovera? Sì, quelli che si torcono nelle budelle, li consolo, è ovvio, perché c'è gente che diventa letteralmente pazza. Infatti. Poi siccome non sa dove andare a sbattere, perché non riesce a orientarsi verso Grillo, perde le ragioni identitarie, perde le ragioni anche di orizzonte, non riesce ad andare magari più a sinistra, perché purtroppo la sinistra, che ha delle bellissime idee, però se la sinistra in un'epoca di crisi sociale, di disperazione, di suicidi di imprenditori, di operai cassintegrati, disoccupati, disperati, non è riuscita a stravincere, vuol dire che è da qualche altra parte rispetto all'epoca. Va bene, grazie. Io ho compreso, Sì, no, io ho compreso. Ma lei è di un altro mondo, l'ha detto già all'inizio, a parte a un'altra epoca. Grazie a Mario Vadia, grazie. Grazie a voi per l'invito. Ciao. Zanzara! Dove andiamo? Gennaro da Caserta. Buonasera, Gennaro. Buonasera, Giuseppe. Buonasera pure a David. Allora? Saluti. Sì. No, io le volevo dire una cosa, mi volevo riallacciare un pochino al discorso che ha fatto prima un radioascoltatore, no? Che stava interloquito. Io dico che oggi, secondo me, a parte pure la politica, la spesa per la politica, bisognerebbe fare una ridistribuzione dei poteri economici anche nell'ambito privato. Sì, nell'ambito privato. Supponiamo, per esempio, posso fare un esempio, no? Sì. Un top manager di un'azienda privata che prende 15.000 euro al mese. Oppure facciamo un altro esempio, magari su Cruciani, che fa che fa lo scemo 2 ore per radio e si prende 10.000 euro di stipendio. Sì. Se gliene darebbero 3.000 e 7.000 magari li ridistribuirebbero a 3 persone ancora assunte, le assumerebbero e distribuirebbero a 3 persone a 2.000 euro l'uno. Sì. Io penso che secondo me fosse pure un discorso di solidarietà e si darebbe modo a tante persone ancora di poter accedere al lavoro, no? Tiè, eccolo qua, ho fatto il gesto dell'ombrello. Tiè, Gennaro, a parte che non servirebbe a nulla, però le faccio il bel gesto dell'ombrello. Tiè, così, Anna da Milano, buonasera. E che le devo dire? Perché lei adesso gioca il ruolo coperto, perciò Anna da Milano, non dica stupidaggini. Anna da Milano, io lo faccio pure davanti a, io faccio anche in faccia il gesto dell'ombrello, non si preoccupi. Anna da Milano. Pronto? Dica. Eccoci, allora, quando lei parlava dell'adolescente, io ero bella incazzata e le avrei fatto un bello spettacolo sulle cose che ha detto. Adesso, insomma, oltretutto ero ferma in tangenziale ovest, per cui proprio le si immagini. Ecco, volevo dire che io sono madre di un ragazzo omosessuale e volevo dare una risposta molto, molto veloce, anche se adesso non ho più sentito se qualcun altro ha parlato nel frattempo, che questo ragazzo non ha nessun tipo di problema personale, è in adolescenza, punto. Ecco, per cui l'adolescenza, non so se lei ha già dei figli in adolescenza. No. O se conosce dei ragazzi, ecco, lei ha dei figli, penso, no? Sì, ho una figlia di 7 anni e mezzo, ma che vuol dire? Quando sarà in adolescenza poi lei si accorge. E allora, primo, e si immagini un ragazzo in adolescenza in cui tutto a 360 gradi diventa un grossissimo problema, che è omosessuale. Per cui questo ragazzo ha detto soltanto il suo malessere di diverso. Vabbè, è un discorso un po' complicato. Anna, sono le 20:58. Sono le 20:58. L'avrei fatto meglio. L'abbraccio fortissimo e ci sentiamo domani alle 18:30. Al di là di uno la può pensare politicamente della prostata, è vero. Perché io ho subito una prostatite acuta, sono andato dall'urologo e lui mi ha detto aumenta l'attività sessuale. Ma dai, non ci posso credere, dai. Ma te lo giuro, io me lo sono fatto scrivere sulla ricetta. Vabbè, ma ho capito, ma se uno... Però la moglie non ci credeva, Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. La prostata, per curarla bisogna trombare!